La notte prima degli esami. Sto impazzendo, ho paura, domani non so come andrà, ma appena ricorderò il mio nome, non oso immaginare se tutte le tracce non mi garbano, sto fuori di senno, insomma, questo è un messaggio che ci ha appena mandato Fabiana sul nostro sito radio24.it, eccoci qua, sarà una notte di paura, una notte di sogno, una notte da incubo, una notte di racconti, una notte... Ci vogliamo emozionare con voi, io sono Federico Taddia e ho l'onore di accompagnarvi verso l'esame di maturità in questa notte prima degli esami. Le coordinate subito per intervenire con noi se siete maturandi, avete voglia di raccontarci cosa state combinando in queste ultime ore prima della prima prova che sarà domani, la prova di italiano. 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 per i vostri messaggi, anche messaggi e telefonate di chi ha voglia di ricordare ancora il proprio esame, come andò, come fu quella notte prima degli esami, e tanti ospiti famosi che saranno con noi. Anzi, entriamo subito con uno che è più che maturo, Gene Gnocchi. Ciao Gene. Ciao Federico, ciao. Ciao, come stai? Bene. Ti senti maturo da dopo la maturità? Cioè, insomma, la maturità è un passaggio, tu come ricordi questo evento che di fatto comunque segna, lascia traccia in tutti noi? Ma io ho vissuto molto tranquillamente perché mio padre era iscritto alla P2, quindi seppi gli esami in largo anticipo e la passai tranquillamente. Ho capito. Ma non ebbi nessun tipo di problema. Ma ti hanno passato solo il titolo o ti hanno passato già il tema realizzato? Tutto, mi hanno passato tutto, il tema già fatto. Uh-huh. Me lo fece Gelli stesso me lo fece. Ho capito, adesso, sono cose, tu l'hai detto immagino agli orali. No, agli orali, ma lui mi disse di non dirlo, mi diede un cappuccio di lana merino, mi disse vai con questo, che loro capiranno, e loro capirono e uscì con un ottimo voto. Ho capito, insomma, è una parentesi di vita importante. Sì. Gene, invece, un consiglio reale, ma quanto può aiutare la leggerezza domani nell'inizio di questi esami, secondo te, che comunque di leggerezza anche ci vivi? Beh, aiuta tantissimo perché l'esame è sempre, in realtà poi è una leggerezza che non è poi così facile da acquisire, però presentarsi all'esame con la consapevolezza che è una situazione, voglio dire, che passa e che viene e che va via, e poi che lascia, è vero che lascia una traccia, ma che non influirà sulla tua vita futura così pesantemente, secondo me è importante. Ok, quindi insomma comunque un momento di passaggio. Ma tu quella notte prima degli esami, al di là dell'aiuto che ti era stato dato, la ricordi ancora? Sì, la ricordo bene perché in realtà, no, adesso parte gli scherzi, io ero pesantemente malato, avevo ero sotto antibiotici, avevo una influenza fortissima, ma proprio febbre a 40, 39, 40, e quindi andai all'esame. Infatti l'ho scritto d'italiano, ricordo che lo sbagliai clamorosamente perché era un tema sulla partecipazione, io scrissi un racconto delirante, però dopo poi con la versione di greco e il resto riuscì a recuperare. Sì, però la cosa che mi ricordo ero che stavo proprio male. Ecco, insomma, per altri esami, cioè nel senso appunto fisici in questo caso. Gene, grazie davvero per aver grazie aperto con noi questa maratona. Ciao, buona auguri a tutti. Ciao. Chissà se auguri è stato sdoganato come augurio, si può dire auguri a chi fa l'esame della maturità? Vedo facce basite. Beh, noi lo chiederemo ai tanti ragazzi che chiameranno anche in questa serata, in questa puntata, in questa diretta, in collaborazione anche col portale studente.it, questa task force operativa attiva, stanno setacciando anche la rete in queste ore, lo stanno facendo in diretta con noi dalla redazione di studenti.it. c'è Verena Gioia. Ciao Verena. Ciao a tutti. Come va? È calda la rete? Moltissimo, e devo dire che mi sta salendo di nuovo l'ansia da esame. Anche a te, questo è un classico, perché uno poi ci ripensa, no? E si ritrova lì a rivivere quel momento. E parleremo molto degli appunti che avete preparato e di quello che hanno cercato i ragazzi nel vostro sito, nei tanti sondaggi anche che avete realizzato con loro. Ce n'è uno giusto per aprire, per capire quello che è un po' l'umore del popolo della rete? Assolutamente sì, si ricollega proprio ai tuoi auguri. Abbiamo chiesto quanto sono scaramantici ed è venuto fuori che quasi il 64% ci crede almeno un po', e qualcuno si porterà domani persino il suo amuleto, il peluche preferito, comunque il suo portafortuna. Ok, quindi sì, bisogna lasciare a casa il cellulare, giusto, perché sono vietati, non si può accedere agli esami col cellulare, però si può portare il peluche. Guarda, non so quanti lo faranno, però molti probabilmente lo lasceranno in borsa perché si vergognano, ovviamente, però sai, porta bene, quindi lo porteranno dietro. Va bene, studenti.it, il sito, su Facebook, i ragazzi sono presenti in questo momento, scaldiamo la rete, il tototema è anche un po' il filo conduttore di questa serata, quindi ci risentiremo durante la puntata per conoscere tutte le novità, e anche noi entriamo direttamente nel tototema. Il tototema è, insomma, avere consapevolezza della notizia, dell'attualità, di quello che può finire, no, dentro a questa busta che domattina verrà aperta. E quindi anche noi non vogliamo giocare a indovinare, però ho chiesto: direttore, ma se tu fossi il commissario, se tu fossi così l'addetto del ministero per scegliere il tema, dove andresti a parare? E il direttore Fabio Tamburini è qua con me. Ciao Fabio. Saluti a tutti. Tu hai, che ricordo hai del tuo esame di maturità? Ma io per la verità ho ricordi piuttosto sfumati dell'esame in quanto tale, ho ricordi invece molto netti su come è andata a finire, e come spesso accade nella vita è esattamente il contrario di quello che mi aspettavo. Faccio un esempio concreto: io ritenevo di essere molto bravo in italiano e avevo voti molto buoni, e in realtà è stato un disastro. Facevo liceo scientifico ed era un disastro in matematica e ho fatto una prova eccezionale, alla fine si sono compensati ed è andata bene così. Cioè, questo vuol dire anche che, insomma, si carica di tante attese questo esame, però è comunque un momento anche un po' così, fine a se stesso. Come la vita, del resto, esattamente come la vita. Facciamo questo gioco delle toto notizie, insomma, i ragazzi vorrebbero già avere in mano la traccia di domani mattina. Si possono dare qualche indicazione, un po' sfogliando l'attualità, un po' le date, un po' i vari sentori? Tu che temi daresti domani? Io sono stato molto più scientifico, ho fatto un sondaggio tra i miei amici professori. Fantastico. Li ho interpellati uno a uno, ne ho chiamati 5 o 6, e devo dire che poi a un certo punto mi sono fermato perché avevo delle indicazioni molto coincidenti, e adesso sono pronto qui, sono preparato e pronto a trasferirle a te e agli ascoltatori. Vai, fai l'elenco. Ma, insomma, ci sarebbe da stupirsi se domani non uscisse dall'elenco dei temi un argomento su cui tutti hanno delle certezze, e cioè quello dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Sarà banale, ma è quello di su cui tutti hanno certezze. Quindi è dato per certo, insomma. Questo è ok, una certezza dell'Unità d'Italia, che è uno anche dei più gettonati dai ragazzi, perché insomma è tutto l'anno che di fatto viene celebrato, e quindi anche l'esame della maturità potrebbe sottolineare questo anniversario. Altre dritte? Un po' meno certezze si hanno invece su un altro tema, che se fossi io tra quelli che decidono certamente avrei inserito nell'elenco. Si è a una svolta per quanto riguarda i modelli di sviluppo dell'economia e della società, e la svolta è l'uscita di paesi importanti dall'energia nucleare. Mi riferisco alla Germania, ma anche alla Svizzera, e in Italia abbiamo anche un elemento di straordinaria attualità, che è l'esito del referendum nei giorni scorsi. Ecco, quindi quello dell'energia nucleare, delle rinnovabili e di un nuovo modello di sviluppo, credo che sia un tema che certamente permetterebbe di testare la maturità dei laureandi. È un tema molto interessante. Insomma, tu questo lo daresti. Poi ci sono gli autori, perché insomma una prova è sempre anche su un testo classico. Ah, qui c'è quello più gettonato di tutti ed è Italo Calvino. Lo aspettano al varco ormai da molti anni e inesorabilmente Italo Calvino poi non esce. Ok, quindi ecco, insomma, queste sono le dritte del nostro direttore. Vedremo domani all'apertura delle buste, anche noi siamo lì in attesa, perché poi le sorprese non mancano, eh? Forse per Calvino potrebbe essere il grande momento. Ok, tutti in attesa di Calvino. Grazie davvero Fabio, noi continuiamo questa notte Radio 24 che insieme agli studenti, insieme alla maturità, credo sia un bel momento da vivere insieme. E anche insieme a un cast di tutto rispetto. Ci sono personaggi eccezionali che interverranno questa sera e a tutti un grande ringraziamento per aver accettato di partecipare alla tua trasmissione, alla trasmissione di Federico Taddia e a quella che per Radio 24 sta diventando una straordinaria, piacevole consuetudine, la notte appunto prima degli esami. Grazie davvero e sarà una bellissima notte. Tommaso, tu domani hai l'esame, t'aspetti che sia appunto una bellissima notte? Diciamo che come notte sarà diverso dalle altre, ma in questo momento non è che sia così speciale, anzi, sono un po' sotto stress più che altro. Ah, sì. Allora, Tommaso, tu e insieme ad altri compagni che poi andremo a conoscere durante la serata, tra l'altro hai avuto la possibilità insieme a Intercultura, questa associazione che organizza scambi studenteschi all'estero, tu hai già dato di fatto l'esame lo scorso anno? Sì, ho dato una sorta di esame di Stato in Canada, ma non era dello stesso livello, ma era una prova scritta che consisteva in francese e matematica, e anche lì è stato importante, ma meno di questo da un certo punto di vista, non contava quanto come questo. Ho capito, e quindi un po' di stress, un po' di preparazione, quindi non dici vabbè l'ho già passato e quindi domani vado tranquillo e sereno. Domani no, domani è un altro paio di maniche senza dubbio. E come ti stai preparando questa sera, che farai? Darò un'ultima occhiata alla tesina che devo finire. Qual è l'argomento che hai scelto? La comunicazione non verbale, cioè tutti i movimenti che si fanno quando si parla. Fantastico. Però scusa, attenzione, è pericolosa come tesina, perché nel momento stesso in cui la vai a esporre anche tu avrai una tua gestualità, quindi esatto, rischi di contraddire esatto quello che vai a raccontare. Sì, spero di non fregarmi da solo, perché sennò sono fatto. Ok, ciao Tommaso, in bocca al lupo, grazie per essere stato qua con noi. 800-24-00-24 è il numero verde per intervenire se avete un ricordo bello della vostra maturità o se volete raccontarci come vi state preparando alla maturità e che domani appunto inizia con la prima prova d'italiano, oppure via sms al 349-238-6666. Noi continuiamo con i volti noti e famosi qui a Radio 24 nella notte prima degli esami. C'è Ricky Memphis. Ciao Ricky. Ciao, buonasera. Buonasera a te, come stai? Bene, voi? Bene, ho il mio tecnico Roberto, che è un tuo grande fan, sta saltellando sulla sedia, ti racconto. Ciao, che è anche il suo compleanno, quindi è proprio uno spettacolo. Si è, abbiamo fatto felice un uomo. È così poco. Ricky, parliamo sì del tuo esame di maturità? Ma guarda, c'è veramente poco da dire, io non l'ho fatto, quindi io mi sono fermato alla terza media come titolo. Mm-hmm. Quindi non l'hai vissuta questa notte? Quindi non ho vissuto la notte prima degli esami. Ma e non l'hai vissuta neanche in compagnia dei tuoi amici? Hai ricordo? No, perché comunque eravamo un gruppo degli ignorantoni, quindi nessuno degli amici miei, quelli più stretti, ha fatto l'esame di maturità. Lavoravamo tutti abbondantemente dai 13 anni in poi, quindi non studiavamo. Però insomma, posso immaginare, ce ne ho degli esami poi ne ho fatti nella vita. Sì, esatto, ma infatti ci piaceva avere la tua testimonianza, nel senso che l'esame di maturità è comunque un momento importante per chi fa un percorso scolastico, però si può anche fare altro, nel senso che una seconda possibilità c'è, cioè non è che non fare l'esame di maturità sia un'agonia che ti accompagna poi per tutta la vita. Ma no, forse all'epoca quando avrei dovuto fare l'esame era un po' più gogna, ma poi dopo no, poi insomma uno basta che poi nella vita fa quello che ama fare e poi si mette a paro. Io ho provato anche, non dico a mettermi a paro, non a livello di persone diplomate o laureate, però insomma ho letto i miei libri, ho fatto le mie esperienze, qualcosina insomma l'ho recuperata, diciamo. Insomma, la maturità non si raggiunge solo sui libri, quindi ma non credo proprio assolutamente no, è importante. importante studiare, è importante diplomarsi, è importante laurearsi, è importante leggere, sapere fare tutto, però insomma la maturità è anche un'altra cosa. Grazie davvero Ricky per la tua testimonianza in questa notte prima degli grazie esami, che ti manca, ma ci piaceva avere anche il tuo pensiero. Ciao e buona serata. Noi ciao. Ci fermiamo per la pubblicità. 824 0024 per le vostre chiamate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, radio24.it dal sito potete raccontarci la vostra maturità, studenti.it e Facebook se volete seguirci in diretta. Fra poco la notte prima degli esami. Dell'amore. E disegna paesaggi di cui posso sentire il profumo del bosco del mattino che viene. La chiedo a morire, legato ad un nodo che non stringe mai. E sulla mia pelle le dita di lei, come di seta, sono di seta. La notte prima degli esami, le vostre emozioni, i vostri racconti, ma anche la vostra colonna sonora, perché insomma la musica vi aiuta e vi accompagna in vista degli esami. Loro sono Francesco Renga e Yerabe De Palo. E Francesco Renga è proprio qua con noi. Ciao Francesco. Ciao Fede, come stai? Come va? Molto ciao bene. A tutti. Ciao. A Parigi, vero? Possiamo dirlo, sì. A Parigi, possiamo dirlo, non sono in incognito. Okay, sì. Perfetto, l'ho chiesto dopo averlo detto, scusami, ma è anche il bello della diretta. Certo. Tra l'altro, prima di entrare nella tua maturità, cos'è questo pezzo che stiamo ascoltando, che è nuovissimo e credo faccia parte di un progetto molto sì, bello? Sì, è un progetto fatto con Rabbe De Palo, è una collaborazione che abbiamo concluso tempo fa, è uscita adesso, ma una bella occasione. Tra l'altro siamo insieme a Villa Reale dopodomani a suonare in concerto ed è lui una bella persona, è stato molto divertente ed è una canzone che mi sta dando delle belle soddisfazioni. A te piace? Molto, infatti ecco, sai, vedi. Ci piace. Insomma, poi l'abbiamo fatta entrare nella colonna sonora degli esami 2011. Quindi speriamo che serva, perché questo è un momento che chi lo vive appunto nel presente sembra insormontabile, sempre carico di paure, tensioni. Invece poi io ti dico, lo sai anche tu, col senno di poi alla fine quando te lo ricordi è uno dei momenti più belli della tua giovinezza. Io almeno me lo ricordo così. Che ricordo hai? Ma a me sono rimaste solo le cose divertenti, le cose migliori, tutta la tensione, la paura che avevo in quella notte fatidica, così è svanita ed è rimasto un ricordo bello, gli amici. Io praticamente ho passato i giorni prima della maturità a studiare con degli amici, sì, in una casa che avevamo sul lago di Garda, che aveva un amico, e l'altra non abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto tutto tranne che studiare e ci si è resi conto l'ultimo giorno che alla fine l'esame era imminente, che come dire, non avevamo coltivato nulla se non il divertimento, e ci siamo però poi abbiamo affrontato come sempre affronti queste prove con un'assoluta incoscienza, e poi grazie a Dio è andata bene. Il ricordo che è rimasto è un ricordo in realtà molto bello, ma di tutti gli anni del liceo. Ricordo solamente i momenti più belli, le amicizie che poi sono rimaste, gli affetti, gli amori, i giorni spensierati, quelli sono veramente momenti che rimangono, perché sono forse secondo me quello è un momento cruciale, perché è il passaggio un po' dalla giovinezza poi all'età, diciamo, adulta, adulta non è la maturità, non è poi l'università, però è veramente il passaggio in cui diventi più responsabile. Beh, sì, chiudi una porta e ne apri un'altra, quindi insomma c'è un po' più un'altra che esatto, che però è l'entrata nella maturità veramente, cioè nella vita reale, in quello che poi ti accompagnerà per tutto il resto della tua vita, insomma. Stanno arrivando un po' di messaggi, tipo uno dice domani, ho chiuso i libri oggi alle 4, quel che è fatto, che mi sembra un bel approccio anche. Mi sembra giusto, perché è così, bisogna fare così, a un certo punto tu devi dire tanto quello che è fatto, più di così non si può fare, e anche affidarsi un po' a Dio, al caso, alla fortuna, chiamala come vuoi, però secondo me è importante anche avere quel tipo di serenità e di convinzione, cioè non cambia niente, cioè le 10 ore prima dell'esame una bella dormita, secondo me, è più salutare che non altro. Diciamo. Quello è vero, anche se tutti ci siamo aggrappati a quelle ultime 10 ore prima dell'esame. Gli ultimi 10 minuti, esatto. Non le ultime 10 ore. Esatto. Francesco, grazie davvero per aver partecipato con noi, con il tuo ricordo a questa notte prima degli esami. Ciao, in bocca al lupo. Tra l'altro hai, oltre a Monza, hai Verona, vero? Che è una tappa importante, sì, credo. Sì, è una tappa bellissima, il Teatro Romano, e poi ho vicino casa Botticino, le cave di marmo, sono tutte date, insomma, con una cornice affascinante, diciamo. E ogni concerto un po' è un esame, quindi insomma, per te la notte... Esatto. Okay. Questo è solo il primo esame, bravissimo, questo è solo il primo dei tanti esami che poi dovranno e dovremo e abbiamo tutti poi dovuto superare. Ciao Francesco, buonanotte, grazie. Ciao, ciao, voi, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. 824-0024, il numero verde, ci sono due maturandi qua con noi, Andrea dalla provincia di Brescia, ciao Andrea. Ciao Federico. Sei pronto? Sì, diciamo di sì, dai. Come ti prepari? Sono abbastanza tranquillo. Sì, come sarà questa notte prima dell'esame? Ma sinceramente non sto a casa, non studio e non penso a nient'altro. Sì. Andiamo in giro. Ah sì, cioè, quindi si esce. Infatti vogliamo capire com'è questa notte, cioè come vi state preparando. Siamo sul lago di Garda. Andiamo, ci sono le feste, c'è il lago, andiamo a distrarci, domani mattina vada come vada. Ok. Quindi cioè, ti sei dato almeno un orario limite per andare a letto o nemmeno? Niente. Orario limite e capisco quando la mia mente recepisce il problema. Va bene Andrea, bocca al lupo per domani, buonanotte. Ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Saluti, ciao. Ciao. Da Cuneo invece c'è Simone, ciao Simone. Ciao Federico. Ciao, come un sta? Saluto anche a Fabio Tamburini, che è sempre un ospite d'eccezione quando lo si sente. Tu hai... Io sono già grande, sono in ritardo, sono. Ma quindi hai un ricordo di esame? Sì. Non ho un ricordo, domani mattina andrò a provare a sostenere il mio primo step di maturità. Quanti anni hai, si può dire? Sì. C'ho quasi 27 anni e dopo 10 anni ho deciso di riprendere in mano un po' il tutto, perché credevo che fosse una cosa interessante. Questo è un messaggio che lancio un po' a tutti quelli che non l'hanno fatto prima. Questa è una bellissima testimonianza. Ma perché avevi smesso? Ma ho smesso perché ho ricevuto un'offerta importante di lavoro e ho iniziato a lavorare per una grossissima multinazionale. Di conseguenza, tra l'altro, ho avuto, come si suol dire, una botta di sì? culo. Okay. Che mi è arrivata e l'offerta è stata importante. Rivesto un ruolo, direi, importante in questa azienda e di conseguenza viene prima il lavoro che lo studio. A distanza di 8-10 anni la mia volontà era quella puramente personale, ripeto, non è una volontà dovuta dall'azienda o dovuta da fattori di esterni. Hai scelto tu, c'è stato qualcosa che ti è scattato dentro e Simone, qual è stata la reazione dei tuoi amici, della tua famiglia, dei tuoi colleghi? Ma allora, inizialmente io non ho detto niente a nessuno, ho iniziato a studiare da solo, proprio da solo, senza dire niente a nessuno e veramente non rendendo partecipe né mia mamma, né nessuno, cioè proprio la mia compagna, assolutamente nessuno. Dopodiché mi sono svelato poco per volta, un po' da uno, un po' dall'altro, un po' puzzava, perché io no, non posso uscire, ma cosa hai da fare? No, ho da studiare, cosa studi? Ma no, cose di lavoro, niente. Poi in realtà è veramente una cosa bella, è una grande soddisfazione essere qua oggi. Premetto, non frequento, per cui sì, mi sto presentando, certo, come un privatista. Non avevo dubbio, però sarà anche tu, insomma, non copiare, mi raccomando. Ma okay. Guarda, copiare non copio, perché la mia ambizione è quella di provarci con le mie gambe. Grande, anche Simone. Perché non avrebbe nessun senso. Grande. Ciao Federico, fatevi una buona serata. Sarà un'ottima serata, anche perché vi daremo delle dritte, dei consigli. Abbiamo chiamato una delle voci più apprezzate, più competenti in questo campo, che è quello appunto della, delle relazioni, delle, delle, del capirsi, del prendere consapevolezza anche di quelli che sono i propri talenti, di quelle che sono le proprie capacità. Diamo il benvenuto ad Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Federico. Ciao. Insomma, con i programmi di Radio 24 tu spesso ti sei confrontato col mondo della scuola e quindi lo conosci assolutamente, assolutamente bene. E mi piaceva averti per così, per dare proprio tre consigli ai ragazzi, tre cose che tu dici: guardate, sono tre chicche, giocatevele domani mattina. Va bene, considerato che la gran parte dei consigli, mangiate bene, andate a dormire presto, glieli diranno già mamma e papà e poi li leggono su tutti i giornali. Diamo tre consigli speciali anche un po' per gestire questa sensazione di sospensione, di ansia, di indeterminatezza, di grande emozione che tra le altre cose renderà proprio indimenticabile la notte prima degli esami. Rimane con noi per sempre come un ricordo indelebile, proprio perché viviamo questa emozione fortissima che rimane impressa nella nostra memoria emotiva. Detto questo, io direi domattina quando vi svegliate prima di uscire di casa, andate davanti allo specchio, guardatevi e cercate di piacervi in tutti i modi possibili e immaginabili, per cui più voi riuscite a fare l'immagine che c'è davanti allo specchio, più voi sarete quella persona positiva e piena di forza che si metterà poi a compilare il proprio compito, il proprio esame. Ok, quindi il primo consiglio, guardarsi. E il secondo, Alberto, te lo do io, nel senso ti dobbiamo richiamare perché c'è la linea un po' disturbata e cogliamo l'occasione anche per dare le informazioni del traffico e poi ancora con Alberto Pellai e le sue, così chiamiamole, perle di saggezza. La notte prima degli esami. Sono in Nirvana con Skule, li teniamo perché sono stati inseriti anche loro in questa compilation della maturità che ha stilato il critico musicale Gino Castaldo. Le abbiamo saccheggiate, andremo anche a fare la nostra colonna sonora serale e siamo in collegamento con Alberto Pellai, a cui abbiamo chiesto tre consigli per domani mattina. Il primo è stato guardarsi allo specchio e prendere consapevolezza, insomma, delle proprie capacità. Poi Alberto, cosa fare? Ma direi inventarsi un rito insieme agli altri, per esempio già domattina per arrivare a scuola non arrivarci da soli ma arrivarci insieme almeno ad un amico e se possibile a più amici, e magari davanti alla scuola fare quello che fanno le squadre di pallacanestro, di pallavolo prima di una partita, cioè avere un proprio rituale che significa molte cose e soprattutto significa stiamo combattendo questa prova insieme a tutti gli altri e non contro gli altri, quindi trasformare qualcosa che è molto competitivo in qualcosa che è invece molto cooperativo, quindi genera spirito di squadra. Bello. Terza dritta? La terza dritta è uno slogan, a dire a se stessi, cioè io non sono un voto, e quindi siccome so per certo che il 95% dei ragazzi quando poi uscirà il tabellone molto probabilmente dirà non sono soddisfatto del mio voto, avere la convinzione già da domani che il voto con cui verrete promossi non dice niente di voi se non una piccola parte, voi siete ben di più, e quindi non mettersi a fare l'esame solo contabilizzando i decimi, punti, crediti, voi non siete un voto, voi siete molto di più. Insomma, tre semplici, preziose e che aiuteranno sicuramente, no, domattina a superare quel panico che comunque ti prende. È vero che magari è irrazionale, è vero che non è ingestibile, è vero che uno dice ma perché devo avere così tanta paura anche se sono preparato, però insomma sono quelle cose anche incontrollabili e quindi possono essere sicuramente tre modi per così smaltire un po' questa ansia da prestazione, perché di ansia da prestazione anche si tratta. Grazie davvero Alberto, buona... Ciao Federico, buona maturità a tutti. Grazie. Ciao ciao. E insomma, visto che siamo qui per raccontare anche come i ragazzi si stanno preparando all'esame in queste ore, 824-0024 il numero verde, oppure 349-238-6666 per i vostri messaggi, c'è anche chi ha scelto di prepararsi andando a fare le prove di teatro. Ciao Domenico. ciao. Se lo so che ti stiamo disturbando le prove, vero? Che... No, anzi, scusatemi voi. Quindi la sera prima dell'esame tu stai provando cosa? Sto provando uno spettacolo originale tratto da De Souza, un autore brasiliano. Uh-huh. E tra l'altro che andrà in scena domani sera, quindi tra la prima e la seconda prova. Fantastico. Cioè, questo vuol dire che tu stai prendendo con molto distacco l'esame di maturità o... No, si studia nel tempo a disposizione, però secondo me una delle cose più importanti è distrarsi, non avere troppo l'esame nella testa, perché altrimenti si combina soltanto un disastro. Ok. Anche tu, Domenico, insieme a Intercultura hai viaggiato il mondo grazie alla scuola e ti sei fatto lo scorso anno in Honduras. Esatto. E anche tu quindi hai già passato una sorta di esame, perché là viene fatto in quarta? Sì, lì ero inserito all'undicesimo anno in realtà, sì. Che sarebbe l'equivalente della terza ed è l'ultimo anno in Honduras. E com'è quindi andata? Sì, ho dato gli esami finali, ma sono stati un po' una passeggiata in quel momento. Okay. Ti eri iscritto a teatro anche là? No, non ho potuto, purtroppo. Accidenti. Quindi Domenico, tu hai trovato questa chiave per distrarti, ma un po' anche qual è il sapore? È una cosa di cui vi state parlando con gli altri compagni? C'è paura? C'è timore? È un po' un salto nel buio o tutta leggenda? No, ci sono un po' i consigli degli insegnanti, ma essenzialmente sì, la preoccupazione c'è, soprattutto per quanto riguarda la terza prova. Le prime due è un po' meno. Ok, infatti, perché la terza prova è quella un po' esatto. più anche perché frequentando un liceo linguistico la seconda prova è un po' più accessibile, dato che la scegliamo noi. Certo, è vero. Grazie, ti lasciamo la tua distrazione teatrale. Ciao Domenico, grazie per essere grazie stato mille. Qua con noi in questa serata. E andiamo a vedere un po' la rete invece, cosa racconta e qual è un po' il termometro del Toto Traccia. Insomma, la scelta del tema è un po' così il grande tormentone, no? Delle ore precedenti. Noi siamo in collegamento con la redazione di studenti.it, Verena Gioia. Verena, la redazione tra l'altro animatissima, no? Perché siete... Voi sapete già i titoli dei temi? Guarda, vorremmo saperlo, ma purtroppo non ci è concesso. Possiamo un po' sondare la rete, raccogliere i rumors e gli autori, oppure le tracce, quelle che i ragazzi pensano che siano quelle più probabili, insomma. Mm-hmm. Ma c'è qualche... Allora, intanto quali sono i temi più gettonati? Allora, quest'anno, guarda, sembra proprio che nucleare è l'argomento letteralmente più caldo. Poi, per quanto riguarda invece gli autori che potrebbero uscire, che tra l'altro poi spesso non vengono mai affrontati durante l'esame, l'analisi del testo viene proprio lasciata un po' in un angolino, comunque si dice che quest'anno toccherebbe la poesia, quindi D'Annunzio o Pascoli. Poi ovviamente tutti temono tipo una terza volta Dante o qualcosa del genere, così è l'ennesima sorpresa. E c'è, ok, questi sono i rumors, questi sono un po' i pensieri, anche io stavo guardando un po' sulle vostre pagine di Facebook, no? Che c'è questa tensione, ognuno spara, tenta di indovinare perché l'amico di un cugino ha detto che. All'ultimo momento c'è stato qualche nuovo ingresso tra i temi? C'è qualche sorpresa last minute o no? Siamo sedimentati su queste posizioni? Guarda, diciamo robe dell'ultimo minuto, ma penso che questa sia colpa vostra, Calvino, nel senso che avendolo sentito seguendovi in radio è diventato improvvisamente un argomento gettonatissimo. Questo anche un po' per far capire come nascono questi rumors, insomma. Quindi così, perché appena è stato detto Calvino in radio è venuto subito sul forum, è stato fantastico. Quindi insomma il nostro direttore ha alzato un po' il velone in rete, citando Calvino, però è 12 anni che manca, quindi perché no? Verena, diamo due dritte anche su questi esami. Domani cosa succede? Domani c'è lo scritto, i ragazzi arriveranno a scuola, ci sarà la possibilità di scegliere, no? In quale prova cimentarsi. Esatto, domani ai ragazzi verrà dato un bel pacchetto di fogli e foglietti, per cui dovranno innanzitutto decidere su quale tipologia orientarsi, ok? Che è tutto un anno, è anche più di un anno che si stanno esercitando, però è quello il momento più importante, ovvero star seduti là, non partire subito veloci a scrivere qualcosa giusto per buttare giù due idee, ma leggere bene le tracce e onestamente riflettere su quale possa essere la traccia su cui hanno qualcosa da dire, su cui sono preparati. Cioè anche un po' un ragionamento, non solo di pancia, oddio questa è bellissima perché l'autore mi piace, è romantica o che ne so io cosa, ma un attimo un po' di concretezza. Su questa traccia riesco a scrivere due righe sensate, fatte bene? Se la risposta è sì, allora andate. Perfetto. E dopo magari andiamo insieme a sfogliare quelle che sono le possibilità di ripasso dell'ultimo minuto che si possono trovare sul sito. Tra l'altro so anche di un'applicazione importante che è stata un po' la novità, ma ne parliamo subito dopo il GR. Ci fermiamo con la notte prima degli esami. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666 per i vostri SMS. La notte prima degli esami. Is teaching the golden rule, American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. You're cooking the lunchroom ready to sell. Chuck Berry, School Days, anche lui nella colonna sonora di questa notte prima degli esami. Arrivano i vostri messaggi, alcuni anche commoventi, al 349-238-6666. Vivo questa notte al telefono con mia mamma a fare temi, che lei fa la maturità alberghiera a 50 anni ed essendo straniera teme la prova di domani, ci credo. Invece su Radio 24, sul sito radio24.it, Alice ci scrive: la immaginavo da un anno, la mia notte prima degli esami è arrivata, non ci credo, ormai sono dentro, è impossibile tirarsi indietro, non ci sono consigli da seguire, non ci sono parole per esprimere un'emozione unica, vaga e indefinita. Questi i vostri messaggi e poi le vostre chiamate all'800 24 00 24, come quella di Rocco Quaresima da Catanzaro. Ciao Rocco. Buonasera. Buonasera a te. Tu tra l'altro sei uno frequentatore del portale studenti.it. Questo vuol dire che è da mesi che ti prepari a questo esame, cercando appunti, cercando scappatoie, sì, cercando suggerimenti. Cerchiamo, vediamo, facciamo qualcosa. Ecco, facci vivere la tensione di queste ore. In questo momento dove sei? Sono uscito ora da casa, ma andiamo con gli amici, vediamo, facciamo qualcosa. Ecco, proprio alla faccia della tensione, vero? Ma sono i compagni di classe, cioè fate una sorta di festa di fine anno? O... No, tutti i miei amici anche di liceo, che io vado alla ragioneria, loro vanno al liceo, quindi ci aiutiamo a vincendo, diciamo, quel che possiamo per stasera. Sì, ma ti sento molto preoccupato per la prova di domani. Sì, sono preoccupatissimo, diciamo. Sì, ma perché sei particolarmente bravo o sei particolarmente... Diciamo che non sono molto bravo, dai. Quindi vai, ti butti. Sì, infatti non ho intenzione nemmeno di portare temari, eccetera. Ascolta, ma hai anche già scelto il tema che farai? Cioè, qualsiasi titolo ti verrà dato, tu comunque che direzione prenderà il tuo componimento? Cioè, sceglierai quello personale, preferirai l'attualità? Non lo so, personale no, attualità o storico sicuramente. Hai una preferenza? Vuoi fare un appello? Per favore datemi quella traccia. No, non mi preoccupare. Niente, ti butti, ok. Sì. Rocco, in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi compagni, grazie, ok? Ciao. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi, sei tu che butti sempre tutto giù. Ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. Ma che discorsi, lui è Daniele Silvestri, è qua con noi, ciao Daniele. Ciao a voi. Ciao. Allora, ma che discorsi che si facevano la notte prima dell'esame, anche perché ci si trova tra amici, spesso lo sentiamo anche a chiacchierare. Com'è stata invece la tua maturità, che ricordo ti porti? Me lo ricordo bene, ma credo che siano dei ricordi abbastanza indelebili, infatti stavo ascoltando un po' e ripensando alle emozioni anche. E la mia notte prima dell'esame è stata abbastanza vulcanica, perché vabbè, io sono arrivato alla maturità con dei problemi, nel senso che dovevo riuscire a fare degli esami meravigliosi, perché sono l'ultimo mio anno di liceo classico, ho collezionato un numero di assenze impressionante, credo da record del mondo. Okay. Ma questo perché ormai già lavoravo con la musica, io ero completamente perso per la musica e quindi non andavo proprio a scuola certe volte, lo dico, anzi a volte entravo e facevo solo la lezione che mi interessava e poi tornavo a lavorare e a fare quello che mi piaceva di più. Però poi ero abbastanza bravo a scuola e ho passato la notte, mi è venuta un'idea abbastanza folgorante, per cui mi sono messo a scrivere una tesina non richiesta, perché io a scuola ero un po' paraculo, si dice a Roma. Ma sì, sì, no, ma rende l'idea ovunque, sì. Sì, credo di sì. Per cui mi sono inventato una cosa abbastanza assurda che poi ha funzionato, perché ho tenuto inchiodati i professori a discutere di quello che avevo scritto, che era un po' strano. E qual era l'argomento? L'argomento era, siccome portavo sia italiano che latino, mi ero inventato un paragone abbastanza assurdo tra i Malavoglia, e quindi Verga, sì, e una cosa che forse di più, così, quelli che se lo ricordano bene il latino e certe letture, era la cena di Trimalcione, che era una cosa scritta da Petronio Arbitro, ancora non lo ricordo, insomma una cosa abbastanza strana, però il paragone reggeva ed era molto molto dotto anche. No, ci credo, insomma, ringraziamo quella notte prima degli esami, perché veramente hai dato il meglio di te, credo, in quelle ultime ore. Sì, ma io avevo questo, facevo sempre così, salvavo sempre tutto le ultimissime ore non dormendo mai, perché in realtà non, veramente non dormivo mai, io ho sempre studiato di notte, dai 15 anni in poi lavoravo solo di notte, e per gli esami di maturità ho finito di scrivere la tesina di cui ti parlavo, credo, non so, alle 7 di mattina. Però ce la facevo, adesso non so più ricordarmi come facessi, ma all'epoca ce la facevo. Daniele, grazie davvero per la tua testimonianza. Tra l'altro hai un sacco di esami in futuro, che sono i concerti che ti aspettano, 24 giugno a Bollate, quelli sono, vero? Lì bisogna arrivare preparati, Bisogna arrivare preparati, e lì non c'è poco da essere paraculi, cioè, io o sei preparato davvero, oppure si nota, si vede e fai figuracce, e cerco di non farne, per cui studio. Ricordiamo le date: 24 giugno Bollate, provincia di Milano, il 9 luglio a Sant'Agata Bolognese, il 15 luglio in provincia di Torino, il 16 a Sordevolo, provincia di Biella. Ciao Daniele, grazie. Ciao, grazie a te. Buona nottata, ciao. E questa nottata andiamo a viverla a Verona insieme a Camilla. Ciao Camilla. Ciao. Ecco, un'altra che è molto preoccupata per l'esame di domani, si sente da... No, bisogna festeggiare all'inizio, o no? Ah, quindi si festeggia all'inizio? Guarda, ai miei tempi si festeggiava alla fine, invece voi avete anticipato questo momento, e non è male. È per togliere un po' di ansia, va, perché se no... ti fa doppia festa all'inizio, alla fine. Bravo. Dove siete? Quanti siete? Cosa state facendo? Siamo quattro storici amici che abbiamo fatto le elementari, le medie insieme, le superiori ci siamo tutti divisi, però siamo un gruppo e vogliamo stare uniti fino alla fine. Ci ritrova. Inferno. Tutto ciò, però, siete tranquilli e sereni, o c'è un po' di panico per domani? C'è il panico totale, fin troppo, non sappiamo come andrà, però l'importante è uscire, perché siamo stufi, non ce la facciamo più. Distrarsi, distrazione e leggerezza sono un po' le parole chiave della serata, e le state assolutamente vivendo. Grazie Camilla, in bocca al lupo a te e a tutto il tuo storico gruppo di amici. Quella che salutiamo tutti, salutate, ciao! Eccoli lì, ciao da Radio 24, ci fermiamo, ciao, un momento. No, stavo sbagliando, scusa, che scusate, ma quando vedo il punto 15 io do le informazioni del traffico, invece vado in provincia di Latina con Antonio. Ciao Antonio. Ciao, come stai? Tutto bene, almeno per ora. Almeno per ora, però dai, ancora 12 ore di tranquillità, e poi domani sei lì, c'è la prima prova. Però mi dicono che non sei tanto preoccupato per domani quanto per giovedì? Sì, giovedì è un po' preoccupante. Come mai? Essendo la seconda in pianti, quindi è un po' più difficile. Okay. Domani, allora, domani si fa, almeno speriamo, se esce un saggio breve fattibile. Qual è un tema in cui ti senti pronto? Cosa ti piacerebbe? Beh, alla fine tutto l'ambito tecnico-scientifico va bene. Ok, quindi si parlava di nuove tecnologie, si parla di nucleare, sì, si parlava sì, di... Lì ti senti preparato? Sì, almeno su quello là sì. Ok, va bene. Poi vediamo l'orale. Bocca al lupo, Antonio. Ok, ciao Federico. 824-0024, numero verde 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ne stanno arrivando tanti ed è bello, insomma, conoscere quelli che sono gli umori e i sapori di questa notte. Quante cose inutili Noemi odia tutti i cantanti, chissà se odiava anche tutti i professori. Ciao Noemi. Ciao, buonasera, Federico. Buonasera, come stai? No, benissimo. No, i professori, beh, alcuni sì, altri no, insomma. È un classico anche questo. Noemi, tu che ricordo hai della tua maturità? No, è stata, insomma, molto bella, molto paura, ecco. Io ero tra i primi maturandi, ero la seconda, il secondo anno dove si faceva la terza prova scritta, perché ahimè ormai sto invecchiando. Però, insomma, bellissimi i 100 giorni, insomma. È vero, perché esatto, perché c'è questa tradizione in alcune zone d'Italia dei 100 giorni, che sono una sorta di preparazione, no, un avvicinamento all'esame di maturità. Ma poi sei una di quelle che appunto ha sognato di notte negli anni successivi l'esame? Beh sì, quando sono un po' sotto stress mi capita di trovarmi durante, insomma, situazioni per l'esame per antonomasia proprio, no? La prova del fuoco, arrivi puntualmente in tutti i sogni, che non sai niente, che non sai perché sei lì. Però devo dire che le volte crescendo, insomma, l'esame di maturità diventa un bellissimo ricordo, nonostante le tensioni, gli stress. Comunque sì, mi capita. Faccio dei sogni paurosi sotto stress. Okay. Poi insomma, poi gli esami non finiscono mai. Un'altra frase che questa sera abbiamo detto tante volte, ed è vero, insomma, no, ci si trova davanti. Però quello rimane comunque il primo esame, che uno se lo porta dietro e si va poi ad aggrappare anche per trovare nuove forze, per dire, ce l'ho fatta quella volta lì, perché... Beh, è verissimo, è vero. Cioè, c'è sempre il mostro finale, però il mostro prima è sempre da molto coraggio, diciamocelo. Tu agli orali hai fatto cose tipo ti sei messa a cantare per sfruttare i tuoi talenti o no? Assolutamente. Però facciamo fatica a vederti come studentessa timida, posata. Invece no, io ero molto timida e devo dire che anzi ero anche abbastanza impaurita, ecco. Io mi sono lasciata andare poi all'università, dove gli esami diventano all'ordine del giorno e persone diverse si incontrano, quindi no, devo dire che ero proprio una brava ragazza. Grazie davvero Noemi per averci accompagnato nel tuo esame. Vuoi fare un bocca al lupo ai ragazzi? Certo, in bocca al lupo, mi raccomando, date il massimo. Copiate troppo, oddio, copiate il giusto. Cubi, quanto basta. Ciao Noemi, grazie. Ciao. Bacione, buona serata. Ciao. E torniamo noi dentro alla redazione di studenti.it insieme a Verena Gioia. Verena, ma voi questa notte lavorate? Domattina sarete davanti alle scuole per essere i primi a conoscere le tracce? Noi lavoriamo sia stanotte, però diciamo un po' come voi, fino a mezzanotte, e poi da domani mattina alle 8 siamo di nuovo davanti al computer in postazione. E lì c'è una gara, tra l'altro stanno uscendo anche agenzie, perché anche la polizia informatica dice non è vero che si possono avere le tracce in anticipo, no? Ogni anno c'è questa forte campagna di educazione, perché c'è ancora chi si diverte a mettere in giro voci, altri che ci cascano, insomma è un po' quel mondo lì. A proposito di nuove tecnologie, avete lanciato un'applicazione per iPhone, giusto? Sì, esatto. Quest'anno, un paio di mesi fa, abbiamo lanciato l'applicazione per la maturità con tutti gli appunti, i consigli, le guide, le dritte, le notizie, insomma, tutto il mondo maturità nel palmo di una mano. Ok, però un palmo di una mano, quindi gli smartphone o i cellulari che devono comunque rimanere fuori dalle aule, lo ricordiamo, giusto? Sì, esattamente. Ricordiamo a tutti che i cellulari non vanno portati, vanno consegnati ai prof. E poi comunque è vero che tanto alla fine tutti copiano i fogliettini, suggerimento del compagno di banco, però insomma di stare parecchio attenti, perché giocarsi 5 anni perché uno viene beccato, insomma, è un po' pericoloso. Sì, non pare bello in effetti, questo. No. Okay. 5 anni sono veramente tanto tempo, e l'estate alle porte, ed sarà un'estate fichissima di tempo libero, e direi che i ragazzi se lo sarebbero anche meritato, no? Ok. Verena, ancora dalla rete c'è qualche chicca, c'è qualche novità, hai colto qualche sfumatura nuova? Guarda, in questo momento i ragazzi più che altro si stanno proprio sfogando su oh mio Dio, non ce la faccio più, panico, ho paura. Qualcuno ha lanciato persino una cosa molto molto carina: la doccia porta fortuna, ovvero tutti insieme a farsi la doccia nello stesso momento, però rigorosamente ognuno a casa sua. Ok, grazie per questa precauzione. Studenti.it con Verena, insomma, potete frequentare il Facebook, lasciare i vostri messaggi, li andiamo a raccogliere minuto per minuto. Anche le voci di Radio 24 qua con me in questa notte prima degli esami, ecco Matteo Caccia. Ciao Matteo. Ciao Federico. Allora Matteo, noi ti conosciamo, no? Ti ascoltiamo tutti i giorni e apprezziamo anche la tua forma di scrittura, la tua forma narrativa, quindi ti volevo questa sera qua per dare qualche consiglio ai ragazzi, perché alla fine, soprattutto nella prova di domani, no, uno si mette in gioco e può metterci del proprio, perché il tema è un'occasione per scrivere anche di sé. Senti, io non ricordo più e non ho sentito prima perché stavo facendo un lavoro, però c'è un tema libero o, come dire, una scaletta più semplice rispetto a quelle guidate su storia o altro? No, il tema libero, sai, scrivi un po' quello che ti pare, no. No? No. Fammi, a parte che un tema libero non c'è mai stato, sì, mi infatti, pare. Cioè, non c'è stato, tipo, no. Parti e comincia a scrivere. Io ora mi ricordo che non era il tema della maturità, però uno dei temi di cui andai più fiero fu quando, al momento della restituzione del tema, la professoressa Ferri mi scrisse, dandomi un 6 meno meno, mi scrisse: questa non è tutta farina del tuo sacco. E aveva ragione? No, okay. era perché non aveva ragione, che ci andai molto fiero, altrimenti non sarei stato così contento che mi avesse colto in fallo. No, quello no. No, perché insomma, quando poi uno è strano, no? Perché alcuni professori apprezzano che tu ci metta molto del tuo, non quanto tuo intelletto, quanto tua vita personale, altri invece chiedono un approccio più distaccato, quindi anche lì bisogna trovare un giusto equilibrio. Sai, io credo che, cioè, la cosa più difficile in assoluto, poi tu dicevi a proposito della mia scrittura, io scrivo per la radio, no? Cioè, quindi scrivo perché una cosa venga detta e che venga ascoltata, che è molto diverso da una cosa che viene scritta per essere letta invece, no? Da una persona, che so io, a casa sua, nel letto, o nella fattispecie da un professore che legge un tema che è una prova d'esame. Però credo che la cosa più veramente più complicata, ma anche e soprattutto quando si fa un tema alla 18 anni, sia individuare uno stile. Sì. Magari piccolo, magari accennato, magari, che so io, con dei punti frequenti, con delle frasi brevi, oppure dei periodi più lunghi, più complessi, però comprensibili, perché altrimenti quello che succede è semplicemente che uno, come dire, riporta delle frasi che sono puramente descrittive, no? di quello di cui deve parlare o quello che deve raccontare. Però mi rendo anche conto che sia complicatissimo, perché sì, uno a 18 anni ha un altro problema, che è consegnare sto maledetto tema e fare in modo che ci siano meno errori possibili. Però individuare uno stile e un gusto proprio, forse è una cosa che, non lo so, magari i professori apprezzerebbero. È un segno di maturità. Matteo, grazie davvero. Tra l'altro anche tu hai un esame, nel senso che so che stai facendo le prove, perché giovedì sera c'è un appuntamento importante che ti vede protagonista. Giovedì sera c'è una serata live che è, diciamo, la serata conclusiva di questa stagione. Il programma in realtà finisce il 1° di luglio, quindi non venerdì questo, il venerdì prossimo. Però abbiamo deciso di, come dire, coronare tutta questa stagione di programma con una serata live in cui ho scelto, insieme anche ai suggerimenti degli ascoltatori, le migliori puntate di questa stagione, anche a proposito dello stile di cui si parlava o di quello di cui racconto, e le racconto live giovedì sera qui nella Sala Collina, nella sede di Radio 24, alle 21, con qualche piccola sorpresa che in radio non si può svelare e che chi verrà vedrà. Certo. E poi sarà riascoltabile in podcast, quindi insomma sì, potrà arrivare ovunque. Grazie davvero Matteo, ciao. Grazie a te Federico, buona notte, serata. La notte prima degli esami. Qui che senza di noi c'è la libertà. Sì, ma basta così. Così. Fa fermiamoci. Basta così, è quello anche che stanno scrivendo in tantissimi ragazzi che insomma hanno chiuso i libri e hanno detto vabbè domani quel che sarà sarà, ma avete riconosciuto la voce, una era quella di Elisa, l'altra è quella di Giuliano San Giorgi che è qua con noi, ciao Giuliano. Ciao Federico, ciao. Tesoro, ciao a tutti, ciao ragazzi. Come stai? Oh, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, ho appena ricevuto un messaggio che mi ha fatto molto ridere di Giacomo che dice cerco sosia che vada domani al mio posto agli esami. Fantastico, guarda io ho dei ricordi pazzeschi, mamma mia, basta così avrei voluto scriverla in quel momento, guarda anch'io, però l'ho scritta dopo un po' di anni. Però ti assicuro, mi ricordo di una serata, una notte prima, dove saltellavo da una parte all'altra della casa al mare, perché l'indomani sarei dovuto andare a fare gli esami, saltellavo da una parte all'altra decantando passi di filosofi, cioè ero impazzito totalmente dalla filosofia alla matematica, perché portavo filosofia e matematica al liceo classico, quindi ero andato in tilt. E quindi tutte le informazioni le avevi in testa e le buttavi fuori saltellando? Sì, sì, quasi recitando a un certo punto, perché alla fine mi sentivo così pronto che mi era venuta questa follia demenz pazzesca, mi sono messo veramente a fare il pagliaccio dentro casa con tutti che mi guardavano, questo è impazzito, però dicevo i concetti assurdi che erano tutti giusti, devo dire, perché poi l'esame mi ha dato ragione. Quindi dopo l'esame invece hai messo un po' d'ordine, quindi cioè, davanti. Ma forse no, forse mi sono disordinato un po' di più dopo gli esami. Sicuramente. Ascolta, ma adesso non so se hai ancora quel ricordo, però davanti al foglio bianco della prova, a te tu ami la scrittura, ti piace veramente esprimere pensieri, concetti con le parole, e anche lì ci hai messo molto del tuo. Stavo proprio parlando di questo, no? Quanto il personale poi finisca su quel foglio quando si fa la prova d'italiano. Ma, sicuramente, però forse non si ha molta coscienza nel, diciamo, quando si è a scuola, cioè questo è un grande problema. Diciamo che forse quando sei a scuola ti senti troppo a scuola e quindi non ti senti veramente te stesso. Questo forse può essere una lontananza nei confronti della scuola stessa italiana. Certe volte la si sente questa cosa, ma un po' anche per incoscienza, per inconsapevolezza, per immaturità, per il fatto che stare a scuola sembra che in qualche modo, quando la si vive, sembra un qualcosa di doveroso, no? Non lo sentiamo così tanto un diritto. In realtà dopo un po' di tempo ti rendi conto che sicuramente in quelle pagine bianche hai lasciato un po' di te stesso. Certo. Mentre lo fai pensi che sia un dovere farlo e non pensi che stai dando nulla di te. In realtà ogni giorno che vivi devo ricorderai sulla pelle, proprio perché non è un dovere e basta la scuola, è un diritto, ed è il diritto pubblico più bello che ci sia. Certo, un'opportunità, però di fatto quando c'hai un voto davanti, un giudizio che ti aspetta, te lo dimentichi e pensi solo a quell'ostacolo che ti sembra un ostacolo insuperabile. Esatto, inizia. Dovremmo trovare prima di tutto noi ragazzi, credo, nel momento in cui la si vive quella cosa chiamata scuola, una coscienza diversa, sì, una coscienza molto, e dovrebbe essere anche ai professori a farti amare la scuola in qualche maniera, certo. con la stessa consapevolezza. In qualche modo al liceo classico, al Palmieri, a Lecce, io ho avuto degli ottimi rapporti con i professori e anche di vita, devo dire, intensi e interessanti. Quindi mi auguro per i ragazzi domani che vivano anche nella giornata di domani, vivano un rapporto stupendo anche con i professori e fra se stessi, perché sono giorni indimenticabili. Grazie davvero Giuliano per questa testimonianza. Una lunga estate ti aspetta in preparazione alla ripresa, no, del 4 ottobre, sì, torniamo da Roma con un grande tour già alla grande, quindi io voglio dire ai ragazzi, se posso, Federico, certo, fate stanotte, divertitevi, perché domani sarà ancora più bello. Ecco, non abbiate ansia, perché non serve. Grazie davvero, ciao Giuliano. Ciao a tutti, ciao. Buonanotte, ciao. Giuliano San Giorgi, la notte prima degli esami, e lei invece è una studentessa e lei domani l'esame di maturità lo darà. Giulia Avanzini, ciao Giulia. Ciao a tutti. Ciao, come stai? Bene, abbastanza bene, sto cercando di prendere con serenità il giorno che verrà domani, insomma, Non essere preoccupata. Anche tu con Intercultura hai già dato l'esame, è bello questo gioco del poter replicare l'esame. Guarda, in realtà io ero in America e lì funziona in un modo diverso, comunque nella mia scuola si poteva essere exempt, cioè esentata dagli esami, perché lì li fanno ogni 6 mesi. Okay. E praticamente se tu facevi meno di 5 giorni d'assenza durante l'anno potevi essere esentata, e quindi mi dava un motivo per andare tutti i giorni a scuola praticamente. Fantastico. E non dover fare l'esame alla fine. Certo. E niente, quindi sì, ho fatto gli esami il primo semestre, non il secondo, però ho fatto la famosa diciamo diploma, la graduation, in cui lancio il cappellino e insomma l'esperienza americana che un po' tutti sognano. Quindi hai proprio la foto anche mentre lanci il cappellino, perché sì, no? Cioè... sì, sì, sì. Okay. E domattina invece come ti presenterai all'esame? Col cappellino no, però insomma, no, esatto. Niente, domani mattina mi presenterò con il dizionario e cercherò di avere un po' di fortuna con le tracce, ecco, perché non mi piace particolarmente scrivere i temi. Ah no? Però no, preferisco le altre prove, ecco. Quindi... soprattutto perché stando fuori un anno, comunque ho perso un anno di prove, di saggi, piuttosto che articoli di giornale, ho imparato molto di più l'inglese, ma ho perso un po' di italiano, ecco. Quindi hai perso un pezzo di attualità, speriamo che non sia proprio, sì, quella l'attualità che ti verrà richiesta. Esatto. In bocca al lupo però, Giulia, a te e a tutti i tuoi compagni. Sì, sì. Grazie davvero. Grazie. Ciao per essere stato qua con noi. Ciao. E torniamo di là dall'oceano, torniamo nelle States, anche se adesso è qui nella sua Bologna, nella sua San Giovanni in Persiceto. Diamo il benvenuto a Marco Bellinelli dall'NBA alla notte prima degli esami. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, come stai? Tutto bene, grazie. Tutto sono bene. Un po' a riposo, diciamo. Riesci a riposarti? Abbastanza, dai. Adesso comunque ho iniziato un programma per cui mi alleno la mattina, però diciamo che durante il giorno sono abbastanza libero, quindi cerco anche allo stesso tempo comunque di divertirmi. Ok. E la mamma ha smesso di farti i tortellini? Che so che ha smesso, no, ha dovuto smettere, perché sennò poi sai, ingrossavo, diventavo ciccione, poi dopo là in America magari mi facevano una multa, quindi ho detto mamma, siamo un po' più tranquilli, una bella insalatina, un po' di pesce e cerchiamo comunque di stare di mantenere la linea. Marco, tu sei arrivato in NBA a 20 anni, 21, giusto? Sì, a 20 anni, sì. Quindi professionista, e che professionista, giovanissimo, anche gli anni prima, quindi eri già ai massimi livelli della Serie A di basket. Qualcosa l'hai dovuto tralasciare, so, e tipo la scuola. Beh, diciamo che la scuola è sempre stata, insomma, dal punto di vista sicuramente molto importante, però io ho sempre preferito, diciamo, la palla a spicchi, cioè il basket per me è sempre stata la prima cosa. Cercavo di fare entrambi, però a un certo punto, diciamo, ho dovuto decidere di seguire questa strada, cioè la strada del basket. Diciamo che da quel punto di vista non ho fatto un errore, insomma. No, quello no, però a te manca quindi la notte prima dell'esame di maturità, non hai fatto la maturità? No, ho fatto una scuola, però la maturità non l'ho fatta perché comunque sai, ero molto impegnato, facevo 2-3 allenamenti al giorno, partite, ero sempre comunque in trasferta, quindi... Purtroppo per adesso no, magari in futuro sicuramente potrà essere importante, però per adesso è solo basket. Solo basket, e ti sento anche abbastanza soddisfatto, insomma, per la scelta fatta, ma no, effetti, sicuramente sì. Anche come non darti ragione, però so che negli States è un po' diverso, vero? Cioè i tuoi compagni, cioè in NBA, cioè, se non studi non vai avanti anche nella carriera cestistica, o è anche questa una, guarda, leggenda, dico, metropolitana? Io non mi sono mai informato più di tanto, okay. Però io pensavo che fosse da quel punto di vista magari un po' più facile, cioè magari uno che è molto bravo nello sport, magari i professori lo aiutavano e cercavano comunque di promuoverlo. Ok. Da quello che sapevo io, però sai, sono sempre voci, quindi non lo so. Vabbè, tu non dirlo che non hai la maturità, non si sa mai. Poi, insomma, quando torni tra qualche anno c'è tempo per recuperare. Guarda, stiamo ricevendo tantissimi messaggi di quarantenni, un 53enne che domani sarà là a dare l'esame di maturità. Quindi gli esami, insomma, se uno li vuole fare, trova il tempo, il modo e il momento giusto per farlo. Per farli. Grazie davvero Marco, in bocca al lupo. Grazie per la tua attività. Bocca a tutti allora per l'esame. Ciao Marco. Ciao. Marco Bellinelli dall'NBA alla notte prima degli esami, e continuiamo a parlare di questi esami. Lo facciamo col nostro taglio, andiamo anche a sondare un po' quelle che possono essere idee di possibili tracce, di possibili titoli, e lo facciamo con un signor giornalista. Diamo il benvenuto a Massimo Gramellini. Ciao Massimo. Buonanotte, buonasera, buonanotte a tutti. Un giornalista ha gli orari un po' sfasati, però, cioè, per te quest'ora cos'è, la fine della giornata lavorativa più o meno? Ho avuto di scrivere da un quarto d'ora, e tra l'altro pensavo alla tua trasmissione e stasera ho deciso di ripetere l'esame di maturità. Cioè, ho fatto un buongiorno sul corsivo, sulla prima pagina della stampa, in cui ho riscritto 30 anni dopo il mio esame di maturità. Il sonno della ragione genera mostri, era il titolo. Ma tu ricordi che tema avevi fatto? Sì, no, l'ho scritto anche che non mi ricordo più niente, mi ricordo che avevo auspicato molte cose, perché ero un grande auspicatore, cioè sai, quando non sapevi cosa scrivere facevo speriamo che, è necessario che, è importante che erano queste espressioni che andavano sempre bene per tutto. E, mi ricordo qualcosa, vagamente ho il ricordo che all'inizio del tema scrissi che Hitler e Stalin erano due dittatori, però allora mettere in coppia Hitler e Stalin non era molto di moda e fui anche redarguito da uno dei commissari d'esame perché avevo osato mettere Stalin sullo stesso piano di un nazista, insomma. No, allora era ancora un'epoca in cui non si dicevano queste cose, quindi avevi osato. Però so che, insomma, mi hai anticipato quando ci siamo sentiti per preparare questa puntata, che hai anche ricordi romantici legati all'esame di maturità. La sera prima, ho ricordo, io abitavo davanti allo stadio di Torino, lo stadio oggi olimpico all'epoca comunale, e c'era il concerto di Ron, Dalla e De Gregori. E allora, per scaricare la tensione, con un gruppo di amici, di compagni di classe, andammo a sentire questo concerto e così è diventato il concerto, penso, della nostra vita, perché comunque è legato per sempre a quell'estate, a quel momento, perché insomma l'esame di maturità, penso che questa sera tu lo abbia già detto o ho sentito dire dai tuoi ospiti quelle 5-6.000 volte, ma è assolutamente la verità, non è come spesso capita, i luoghi comuni sono veri, è veramente il giorno culminante, è un momento così decisivo. In realtà poi la maggior emozione c'è al primo giorno, domani, che in fondo è il più facile, almeno per me era il più facile, perché il tema era la cosa di cui mi sentivo più sicuro. Il mio vero momento di terrore fu quando nella versione di latino, di greco, non mi ricordo, no, di latino, la versione di latino, ecco, lì veramente avevi la tremarella e poi agli orali. Però l'impatto del primo giorno, sicuramente, quando entri in quell'aula, ti ficchi dentro quel banco. È vero, si sente. Ti facciamo tornare anche noi per un attimo al tuo esame di maturità. Sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di Massimo pane. Era un po' questo il mood, vero? Sì, sono di De Gregori. Cosa sarà? Sì, era questo. Questa era la canzone. Cosa sarà che ti fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Io davvero, questo è il vero grande augurio che vorrei fare a tutti i ragazzi che ti stanno e ci stanno ascoltando. Cosa fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? È la paura che questo mondo non ci sia un posto per voi. Ecco, invece il posto ci sarà, dovete crederci, dovete scacciare questa paura, perché è la paura. Io avevo scritto all'epoca in quel mio tema il sonno della ragione genera mostri. Oggi credo che sia il sonno della passione che genera mostri, cioè noi dobbiamo tornare ad appassionarci, a progettare, a credere assolutamente nel futuro, per cui domani mattina, e non solo domani mattina, credeteci assolutamente, perché la vita è tutta nelle vostre mani, anche se vi tocca vivere un'epoca, almeno per chi nasce in Europa, sicuramente difficile. Oggi forse è più facile nascere in Brasile per un ragazzo, o in Cina o in India, ma qui vi tocca vivere, qui vi tocca crescere, ce la potete fare. Io non sono un ottimista così a tanto al chilo, sono abbastanza, credo, realista, però credo anche che se un ragazzo non viene messo nelle condizioni di tirare fuori tutta l'energia, la passione che ha. Io ricordo, Federico, anche tu ti ricordi di com'eri a 18 anni? Sì. Io avevo tanti capelli in più, però avevo anche l'unica cosa che ho cercato di conservare per tutta la vita, che è appunto questo desiderio sempre di credere che sia possibile fare, realizzare i propri sogni. Poi non li realizzi mai esattamente. No, però insomma, è quella roba lì. Hanno la direzione di marcia, no? È bella, mi piace la forza della passione come colonna sonora per l'esame di maturità di domani. Massimo, grazie davvero come sempre. Buonanotte. A tutti i ragazzi, soprattutto. Buonanotte. Ciao. Che si spengono in un secondo, non appena ne vuoi soffiare. C'è qualcosa che ci spinge, è difficile cambiare. E per quelli come noi, che si sentono insicuri, c'è soltanto una risposta. A volte siamo un po' immaturi, come il sole verso l'alba, che fa luce ma non scalda. Sì, ammettiamolo, noi che l'esame di maturità l'abbiamo già fatto, sì, rimaniamo comunque immaturi. Quello è un esame, è un passaggio, è un momento, però poi per fortuna ne siamo fieri anche un po' del nostro essere immaturi. Alex, cosa hai pensato quando hai scritto immaturi? Oh, ma io non pensavo troppo agli esami di maturità, no. era un'immaturità un po' più... un po' più personale, diciamo. Ormai gli esami di maturità, chi se li ricorda, sono passati tanti anni. Sì, comunque, insomma, pensare Alex Britti all'esame di maturità è difficile pensarlo senza chitarra. Sei riuscito a portartela anche agli orali o no? No, non me l'avrebbero fatta passare. Però, quindi no. Niente. Ma hai un qualche ricordo? Cioè, è stato un momento che hai passato con molta leggerezza? Avevi già la testa altrove in quel periodo? Guarda, io ho fatto gli esami di maturità e la mattina dopo sono partito in tournée, che avevo un concerto a Lipari con Louisiana Red, quindi non sono neanche andato a vedere i quadri, nulla, quindi ho vissuto abbastanza con leggerezza, devo dire. Sì, quindi zero timore, e quindi non sei neanche uno di quelli... Un pochino di timore, sì, anche perché insomma... Non ero uno studente modello, però tanto avevo pensato che se mi avessero portato comunque agli esami, se mi avessero ammesso, no? Si dice. Uh-huh. Era un buon segnale, quindi sapevo che in qualche modo comunque sarei promosso. Mi sono aggrappato a questa emozione e poi è successo così. Okay. Un buon 36 e via, insomma, vero, un miracolo proprio. Ma tu già quel giorno sapevi che da grande avresti fatto un musicista? Sì, ma io già facevo il musicista in realtà. Era già quella la tua vita. Ero già grande poi, sì. Non volevo permettere di essere giovane ancora. Insomma sì, giovane di età, però già lavoravo, già avevo le mie cose, insomma. Okay. E quando ti hanno proposto di scrivere questa canzone per il film Immaturi, ti è scappato da ridere? Nel senso che hai rivissuto un attimo quel periodo o no? Era tutta un'altra storia? Beh no, perché poi il film, se ci fai caso, parla di una... c'è un bipolarismo di immaturità, cioè nel senso che sia l'immaturità parla della maturità della scuola, dell'esame di maturità, però parla anche di, se ci fai caso, tutti i protagonisti del film, c'è una base di immaturità in loro, soprattutto in Ricky Memphis, però insomma tutti quanti hanno, insomma, non vogliono affrontare il fatto di essere diventati grandi. Okay. Quindi io dalle parole, cioè poi la maturità scolastica è un pretesto per parlare di queste persone. Certo. Quindi quando avevo fatto due chiacchiere con Paolo, il regista del film, quello che mi era arrivato era quello, visto che avevo degli appunti che già somigliavano al film. Poi è stato, diciamo, abbastanza veloce perché corrispondeva, ce l'avevo già, diciamo. Alex, cambio un attimo il discorso, ma neanche tanto, nel senso che ho visto che hai appena pubblicato un DVD con Nelle mie corde, lezioni di chitarra con un maestro d'eccezione. Cioè ti sei messo dall'altra parte, fai tu il professore. Faccio io il professore, sì, mi hanno chiesto di fare il professore, io non... cioè insegno a modo mio. Ok. Se non leggo la musica, non scrivo, io sono soltanto orecchio. Quindi do delle dritte ai ragazzi, a chi insomma a chi segue il libro, il DVD, gli do delle dritte dall'amico che ha più esperienza, suona da tanti anni, gli può dare le dritte. Perfetto. Poi la parte, quella teorica, quella scritta, perché poi ci sono, nel libro ci sono un po' di trascrizioni, di assoli, eccetera, però quelle lì le ha fatte qualcun altro perché hanno registrato e poi hanno scritto quello che io ho registrato suonando. Fantastico. Alex Britti, il 7 luglio a Recanati, il 9 luglio a Pescara, l'11 luglio a Varallo Sesia, provincia di Vicenza. Buon estate, Alex, grazie per essere stato qua con noi in questa notte prima degli esami. Ciao. Ciao. A volte volte siamo un po' immaturi. Noi che andiamo contro vento, ma che in fondo il vento non ci sfiora mai. E tra gli immaturi c'era anche lui, Raul Bova. Ciao Raul. Ciao, buonasera. Buonasera a te, buonanotte. Questa lunga notte, chi domani ha gli esami dorme poco, ce ne stiamo accorgendo. Un po' per festeggiare, un po' per paura. Ma prima di arrivare alla tua vera maturità, anche tu eri tra gli attori per gioco, per scherzo, per professione, hai dovuto rivivere l'esame di maturità. Sono entrate sensazioni che già avevi vissuto nella tua vita reale quando avevi 18-19 anni? Ah, sì, sicuramente sì, sì. Abbiamo avuto un po' il gruppo, abbiamo ripercorso tutta la voglia di rincontrarsi. Diciamo che abbiamo rifatto l'esame di maturità quando ormai avevamo, insomma, più quasi 40 anni, quindi si sono rincontrati dei vecchi compagni di scuola, quindi questo era un po' diverso, però è un po' fa molta nostalgia, insomma, rincontrare dei vecchi compagni di scuola con i quali è passato, insomma, l'ultimo anno, è passato la maturità, e poi rifarla un'altra volta, devo dire che insomma, anche solo interpretarlo è stato molto, molto interessante, molto intrigante, anche perché ricordi fantasmi belli e brutti di quel periodo che devo dire, insomma, c'è chi l'ha vissuto con grande paranoia o con grande gioia, però alla fine è un momento che ti ricordi sicuramente. Tu che ricordo hai del tuo esame? Più fantasma o più gioia o più felicità? Ma io molto fantasma, ti devo dire, avevo veramente un'ansia pazzesca e non veramente stavo appresso a tutti quelli che dicevano no, esce questo tema, esce un altro tema, esce, c'è il latino, c'è il greco, c'è quell'altro, c'è quel problema, insomma entri un po' in quel marasma di informazioni che sì, ti distraggono soltanto e ti tolgono tanta energia. Però poi a distanza di tempo ripercorri quel periodo lì e dici, però bello avere quell'adrenalina, quella paura, quel senso di della percezione di non sapere quello che sarà il futuro, no? E però ce l'hai anche un po' nelle tue mani, quindi sta anche un po' a te, quindi cerchi di puntare sulle tue forze, ma di sperare anche in qualche stella positiva, no? Certo, insomma, l'aiuto, il colpo di fortuna. Sì, l'aiuto, il colpo di fortuna, il fatto di avere anche quel giorno, quella domanda, no, che al momento giusto sulle cose che hai studiato, che sai di più, perché c'è anche molta fortuna in quel caso là. Però insomma è anche un po' un piccolo esame che poi della vita ti ritroverai a riaffrontare, certo, tante altre volte, quindi è un po' l'inizio di una bella vita piena d'esami. Grazie davvero Raul per averci portato la tua testimonianza in questa notte. Grazie prima a voi. Degli esami. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. La notte prima degli esami. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Lorenzo, la maturità è un Big Bang? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, sì, ciao. Sì, lo è, in qualche modo lo è, insomma, è una notte, Venditti ha beccato proprio nel titolo della canzone, la notte prima degli esami ha beccato proprio una sensazione forte, la notte prima degli esami è... C'è l'attesa, è strana, ti senti all'inizio di qualcosa, no? E alla fine di qualcosa, insomma è un momento di passaggio grosso, sì, grosso. Poi la mattina degli esami, quando io mi ricordo l'ho fatti al Malpighi, al liceo scientifico a Roma, proprio salire le scale, andar lì vestiti da estate, si arriva, insomma c'è tutto un altro mondo, ti senti fuori dalla scuola, no? Già fuori dalla scuola, ti sembra già un posto che non ti appartiene più, no? Ti senti già distante in qualche modo,

Penso positivo, sì. Quello è nella letteratura italiana. No, non lo so, sì, autorizzo tutto io, ci mancherebbe altro. Davvero, Lorenzo, grazie davvero per aver grazie Federico, un vissuto tutti, con noi. Ricordiamo che anche tu sei lì con un bel esame, perché hai gli stadi che ti aspettano, insomma. Sì, io guarda, sto iniziando le prove della parte estiva e il 29 partiamo da Bari, poi facciamo tutta l'Italia. E anche quella è, insomma, una bella prova, credo. Ma poi per me veramente, poi, insomma, non è che l'ho detto io che gli esami non finiscono mai, questo lo dico anche ai ragazzi che domani inizieranno questi esami. Ragazzi, quella è una delle frasi più vere che troverete in tutta la vostra vita. L'ha detto Edoardo Di Filippo, mi sembra, no? Ed è uno stimolo, no? A fare sempre meglio, a crederci, a provarci. Meno male, se non ci fossero gli esami, ragazzi, la vita sarebbe un piattume. Cioè, l'esame, ti capito, ti mette, ti dice dove sei in quel momento. Esatto, ti dice dai, fai un altro passo e buttati. Esatto. Lorenzo, grazie davvero. Un abbraccio a tutti, ciao. A te. Ciao. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. 800 24 0024 il numero verde per le vostre chiamate, se ci volete raccontare queste ore prima dell'esame di maturità, oppure se volete ricordare l'esame che avete dato anni fa. I vostri sms invece al 349 238 6666. Andrea da Cuneo, domani ha l'esame. Ciao Andrea. Ciao. Come ti stai preparando? Ma diciamo che adesso me la passo abbastanza tranquilla. Sì. Non sono molto in agitazione. A parte i miei amici che mi mettevano abbastanza tensione. Ah sì? Come? Qual era la strategia appunto di tensione degli amici? No, era tutti frenetici, soprattutto i in bocca al lupo, senza volerlo, potevano mettere un po' di tensione, ma... Ok, comunque domattina ti presenti tranquillo e sereno e vai, ti senti sì. Pronto? Sì, mi sento abbastanza pronto, sì. Ok, beh, questa sicurezza che, insomma, che trasmetti, speriamo sia contagiosa anche nei confronti dei tuoi compagni. Grazie Andrea, in bocca al lupo, buonanotte. In bocca al lupo, devo salutare solo un mio amico. Vai. Quello lì che appunto mi voleva mettere abbastanza agitazione. Ciao Richard, domani spacchi. Grande, Richard ciao. È felice. Ciao. Mentre c'è chi domani, e siete la maggior parte di voi, siete quasi mezzo milione di ragazzi, di maturandi appunto, che affronterete la prima prova, c'è invece chi domani finirà gli esami, sarà il suo ultimo giorno degli esami di maturità. Si chiama Virginia Valsecchi, tra l'altro è attrice nei liceali, vero Virginia? Ti abbiamo visto? Sì, verissimo. Io domani finisco la maturità, diciamo una grande emozione finire la maturità e anche un grande sollievo. Grande, Virginia Valsecchi, quindi studentessa per finta, appunto in televisione, studentessa per davvero, però spiegami questa cosa, perché tu domani finisci gli esami? Beh, allora, perché io frequento il liceo francese a Roma, sì. E io ho iniziato la maturità il 10 di giugno e finisco domani, perché è un po' tutto più sballato, non è come gli italiani che sono un po' più regolari nelle cose. Però io finisco domani e capisco tutti gli italiani che oggi sono stra stressati per l'esame di maturità. Io il 9 giugno, che era la mia notte prima degli esami, ero angosciatissima, cioè non sono andata a dormire. E nessuno ti capiva però, perché? No, nessuno mi capiva. Io scrivo su Facebook domani notte prima degli esami e tutti quanti mi rendevano per scema, cioè ma che dici? Però vabbè. Ok, ce l'hai fatta. Invece com'è appunto la notte prima dell'ultimo giorno degli esami? È la notte prima dell'ultimo, cioè io sono felice. Per me è come se avessi già finito l'esame in realtà. Sono sì. Felicissima, proprio neanche ci penso. Penso a quello che farò dopo l'esame. Ok, insomma, quindi mi sembra un'ottima testimonianza. Com'è andata? Tu puoi dirlo. No, insomma. È andata... In realtà non vorrei dirlo perché non mi voglio portare sfiga, però penso sia andata abbastanza bene. Va bene, non diciamolo. Cioè, non diciamolo. Rimane lì con la bella sensazione, sì, che ti accompagna fino a domani e poi via. Si festeggia. Però due consigli. Vai. Allora, il primo, non ascoltate notte prima degli esami perché porta sfiga, cioè, nonostante sia una bellissima canzone, cioè ascoltatela. Ok, la canzone stai dicendo, pensavo sì. Stessi parlando del programma per un attimo, ok, no, quindi accantonate Venditti per queste ore. No, siamo lo share del programma, no, scherzo, a parte di scherzi. Allora, notte prima degli esami non va ascoltata stanotte, assolutamente no, ascoltatela okay. Domani, dopodomani. Non si dice in bocca al lupo. Ah no? Ma invece si dice, posso dirlo? Vabbè, c'è una parolaccia in mezzo, però vabbè. In culo alla balena. Sì, è più incisivo, dici. E basta, questi sono i due consigli. Ok, grazie Virginia. Ecco. Ciao, in bocca al lupo domani per il tuo gran finale. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Cioè, in bocca al lupo non si dice. Vabbè. Hai ragione, scusa, vabbè, con la balena. Vabbè. Ciao. Ciao, grazie. Andiamo a Macerata da Simone. Ciao Simone. Ciao. E là, dove sei? Guarda, io sono in piazza, c'è una festa tra l'altro, quindi una notte prima degli esami proprio così, bellissima. Okay, ma è una festa di paese, cioè una festa, o è proprio, diciamo, una festa per i giovani organizzata dal comune in piazza, ma infatti dovevo suonare anch'io perché io faccio DJ. Okay. Però visto che domani ho gli esami ho detto di no. Questo è stato il tuo sacrificio in preparazione, ecco, all'esame? Ecco proprio così. Okay. Comunque sei carico per domattina, sì? Sì, ma io proprio non sento, l'ansia diciamo che non la sento per niente, infatti sono abbastanza rilassato. Perfetto, quindi... Non so se è, diciamo che è un difetto questo. Magari è una sana incoscienza. Che... Speriamo bene, speriamo. Perfetto. Ciao Simone, ciao. Ciao. Buoni esami e che mi siamo un ottimo augurio. Okay. Ciao, ciao, ciao. E noi continuiamo la nostra maratona e lo facciamo... È un attore, è un comico, è un conduttore. Lui è Neri Marco Re. Ciao Neri. O quel che resta di lui. Ecco, nel senso che... No, spiega tu, cos'è successo? Non lo so, la voce si è trasformata, però stavolta non sotto il mio controllo. Per cui... Che tra l'altro questa è un'ottima scusa in vista degli esami, no? Più per gli orali, esatto, che per gli iscritti. Uno si presenta un po' malaticcio e... Esatto, e fa leva sul senso così di compassione. Allora, però... allora Neri, tutti lo sappiamo che tu insomma eri un po' un secchione a scuola, almeno questo è quello che si legge in tutte le interviste, eri comunque uno bravo, eri uno diligente. Definisci secchione? No, per persona un po' più che diligente, cioè ci tenevi molto a fare bella figura. Il secchione è quello che si accanisce sui libri. Tu no invece? No, io diciamo che risultava bene, cioè mettevo bene a frutto il tempo che dedicavo allo studio, però non sono mai stato uno che c'è stato tantissimo sopra, insomma a me la preparazione all'esame di maturità per me ha significato giocare a tennis una volta al giorno e ascoltare musica mentre studiavo, mettevo a loop il concerto in Central Park di Simon & Garfunkel e alle O di Claudio Baglioni e poi mi interrompevo per vedere quelli della notte perché era l'85, quindi la famosa mens sana in corpore sano, e poi ridevo appunto con Arbore e Company e il resto del tempo della giornata ovviamente lo dedicavo allo studio. In quei giorni lì dedicavo molte ore ovviamente. È fantastico, insomma tu della maturità hai il ricordo del tempo libero, insomma delle ore che ti ritagliavi per te più che per lo studio. No, ricordo che appunto lo studio era sicuramente la parte maggiore, però non impazzivo di quello, nel senso che sulle ore di studio innestavo comunque questi momenti di svago che erano fondamentali per riuscire a far attecchire bene tutto quello che studiavo. Poi ovvio che mi piaceva anche studiare, allora in quel senso lì la passione per quello che si fa è sempre importante, insomma se uno lo fa con i freni tirati viene difficile, si fa più fatica e si ottengono peggiori risultati, però è ovvio anche che non te lo puoi imporre, insomma io portavo storia inglese, ricordo anche, non va mio diciamo onore questo fatto, che il programma d'inglese non l'ho finito neanche di leggere, cioè l'ho letto la mattina stessa dell'interrogazione, quindi per dire non ho calcolato bene i tempi, però me ne sono anche un po' fregato perché insomma il resto delle cose le avevo studiate abbastanza bene, quindi dico vabbè, speriamo non mi chiedano le ultime. Un grande classico. Ecco, ma vista oggi quel momento, è stato un momento di salto, è stato un momento di cambiamento o è solo un passaggio che nella letteratura, nella quotidianità si chiama ancora maturità, ma di fatto è solo un esame scolastico e basta? Però insomma, un certo effetto a raggio un po' più ampio ce l'ha. Innanzitutto lo ricordo appunto con piacevolezza perché era come allenarsi per una prova e arrivare comunque a questa prova con la giusta emozione, tensione sicuramente, però anche con la tranquillità di chi ha la coscienza a posto. e poi sì, probabilmente insomma si archiviano 5 anni, no? È tutta una fase di passaggio di anni scolastici, certo. Per cui poi da lì effettivamente senti che sta arrivando un momento importante per la tua vita, che è quello in cui deciderai quale strada prendere, il che non significa che poi tu non possa tornare indietro o deviare, insomma, come poi è successo in effetti a me, però significa comunque che stai prendendo una decisione ancora più importante di quella che hai preso dopo la terza media. Certo, però poi bisogna anche godersela, insomma, perché comunque ti fermi un attimo, ti guardi indietro, guardi avanti, perlomeno è un momento dove prendi coscienza di qualcosa e poi butta. Poi ripeto, insomma, bisogna anche una volta finito l'esame godersela un po', stare un po' tranquilli e dire vabbè, questa qua l'ho fatto, ecco, un po' di vacanza, di spensieratezza ci vuole prima di riprendere poi il nuovo corso. Fantastico, grazie davvero Neri, in bocca al lupo per la tua voce, valla a recuperare da qualche parte. Vabbè, tornerà per forza prima o poi. Lasciami invece fare l'in bocca al lupo migliore a tutti i ragazzi che si stanno preparando. Di consigli ne staranno sentendo tanti, anche oggi sui giornali c'è quello appunto di non essere troppo tronfi per mascherare la tensione, quello di non variare le abitudini. Io insomma mi associo a queste cose qua e semplicemente dico siete voi stessi, è effettivamente un esame ma non è la fine del mondo, insomma. Ho visto gente che è sopravvissuta a dei 36 e vive una vita felice, insomma, anche adesso. E questo è l'in bocca al lupo di Neri Marco Re. Ciao Neri, buonanotte, ciao. Grazie. Ciao Fede. Alice Cooper, Schools Out, continua la nostra colonna sonora, appunto l'abbiamo rubata da quello che ha scritto Giro Castaldo, ha fatto la compilation della notte prima degli esami, sono andati a rubargli un po' di testi, un po' di canzoni. Invece entriamo di nuovo nella redazione di studenti.it con Verena Gioia. Verena, iniziano ad andare un po' a letto questi maturandi o non ancora? Federico, i primi sì, cominciano ad andare a letto, anche perché per molti di loro domani mattina sarà una sveglia abbastanza presto, quindi giustamente cominciano a dirigersi verso il letto, mentre molti stanno ancora online tra Facebook, forum, Twitter, insomma stanno ancora a chiacchierare parecchio. Poi abbiamo chiesto loro anche in questa serata un po' cosa vorranno fare domani, sì, durante la prima prova, eravamo curiosi di sapere se già avevano idea cosa scegliere. Molti di loro sembrano voler scegliere il saggio breve, poi dipenderà ovviamente dalle tracce, perché poi spesso sappiamo che il tema d'attualità diventa poi quello più gettonato di tutti, dove alla fine comunque ci si appoggia, no? Perché si sente più sicuri e l'attualità è diversa da quello che hai studiato, insomma pensi di essere facilitato, però poi insomma è bello anche andare a rinvangare un po' nelle proprie competenze, quindi scegliere anche altre opzioni. Ma è la prova di domani quella che più spaventa gli studenti? Ma a dire il vero no, nel senso che stasera il panico è quello da esame generale, oh sì, mio Dio, siamo certo, arrivati, no? Che fa decisamente paura. Però tra tutte le prove, sia scritte che l'orale, quello che alla fine i ragazzi temono di più sono, per alcuni ordinamenti, la seconda prova, ovviamente, perché chi ha matematica, per dire, se la sogna sì, di notte. Ci credo. Però in linea di massima una prova temuta è il colloquio, perché si tratta di andare davanti a delle persone a spiegare il proprio lavoro, a non fare brutte figure, a sostenere una tesi, eccetera, eccetera. Comunque è la prima volta che lo fanno, no? E quindi giustamente è una bella prova. Eh sì, insomma, però c'è anche un lato divertente, diciamolo. La notte prima degli esami. Che pur presso tieni sul mente, pensa durare come quando sei a letto. Meglio fare l'elemosina che massaggiare l'elemora. Meglio povero che foglia, o no, sa? Ogni radio, ogni club, ogni set, ogni volta che sali sul palco a fare il re. In città, in città, in città. Marrakesh e Giusy Ferreri alla notte prima degli esami. E il Mar è qua con noi. Ciao Marrakesh. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te, come stai? Io bene, bene, molto in forma. Ecco, ma se ti dico notte prima degli esami ed esame di maturità, cosa ti viene in mente così al volo, subito, la prima immagine, il primo ricordo? Guarda, io non voglio essere una voce fuori dal coro, ma non so, ti stupisci se ti dico niente. Niente, proprio. No, nel senso, cioè, tutto il giorno che ci penso provo a ricordarmi la mia notte prima degli esami, ma ho una tabula rasa. E sono arrivato alla conclusione che effettivamente forse un po' anche questo è il motivo per cui faccio il musicista, che probabilmente la scuola non era proprio una cosa così importante per me. Anche se insomma tu con le parole ci giochi tanto, nel senso proprio nobile del termine. Sì, sono un autodidatta, in realtà non voglio assolutamente criticare l'istruzione, perché anzi a me piace molto leggere, è una passione che ho fin da piccolo e mi sono sempre portato dietro. Faccio un po' fatica a dare valore alla cultura calata dall'alto, ecco, la cultura istituzionale, dove secondo me poi gira e rigira ti resta solo quello di cui ti interessa veramente, capisci? Okay. Per cui ci sono delle cose della scuola che mi ricordo tantissimo perché mi interessavano, tipo la storia o appunto l'italiano, quindi lettere, e altre di cui per esempio io sono un elettrotecnico, sono un perito in teoria, ma non so niente, sono anche a guidare una lampadina, quindi. Okay. Quindi insomma non è stato comunque un momento di passaggio, non sei uscito maturo dopo quell'esame? No, ti dico appunto, quello che mi sorprese di più è che quello che mi ricordo con molta chiarezza è che dopo gli esami, appena finiti gli esami, in cui pensi di avere questa sorta di rivelazione, in cui dici cazzo, ho fatto gli esami, ho passato una fase della mia vita, nel senso, se ne apre un'altra, ecco, in realtà io mi ricordo con chiarezza che dopo gli esami non era cambiato più o meno niente. Sono rimasto deluso dal fatto che pensavo di sentirmi chissà in che modo, mentre invece non è stata questa svolta, quindi anche questo forse è un sintomo del fatto che non è una cosa che mi ha colpito così tanto, ecco. Esatto, quindi insomma quel distacco che poi aiuta, no? Aiuta, e credo che sia quel distacco che ti permette poi anche di raccontarla, la realtà che vedi e che poi riesci a riprodurre in musica e parole, perché è quel distacco che serve, insomma è, certo. È un punto di vista, no? Anche quello, stare un passo indietro. Servono entrambi, perché il distacco appunto ti aiuta a raccontare cose anche il distacco è l'arma migliore per raccontare qualcosa anche quando non ti coinvolgi direttamente, per astrarti da quello che racconti. Invece il coinvolgimento è un'altra faccia della medaglia e ti serve magari nei pezzi più passionali, anche quello si sente quando racconti una cosa con distacco o quando con coinvolgimento, insomma di solito tieni due canzoni diverse. Assolutamente. Grazie Marrakesh per essere stato qua con noi in questa notte prima degli esami. Ricordiamo il 9 luglio a Lumonferrato Alessandria, il 16 luglio a Cave Orto di Ballo in provincia di Trapani, e poi tantissime altre tappe, ma c'è il tuo sito che è aggiornatissimo. Ciao, grazie. Ciao Marra, ciao. In bocca al lupo a tutti comunque. Hanno detto che non si dice in bocca al lupo, però. Ah, vabbè, allora ho dato una sfiga madornale. ciao. Ciao. Pierluigi, si dice in bocca al lupo? Ma non lo so. Qui dalle mie parti usiamo un'altra cosa. Ok, sì, no, non, guarda, abbiamo già così superati i limiti. Montebelluna, Pierluigi Barra, tu domattina ti presenterai gli esami. Con che spirito? Come stai? Io sono molto tranquillo. Cioè, a differenza degli altri, io sono quello che sta un po' portando la calma ai miei colleghi. Uh-huh. Ho il cellulare e la tastiera del computer bollente, leggo messaggi di molta gente ansiosa. Uh-huh. E invece tu porti questa serenità che in effetti anche con la tua voce comunichi, proprio. Ma perché sei particolarmente preparato e consapevole delle tue conoscenze, o è proprio un tuo atteggiamento? No, è un mio atteggiamento, cioè, sono delle idee che è meglio essere ottimisti, positivi. Perfetto. E quindi affronto l'esame così. Benissimo, speriamo che questa serenità possa contagiare chi domani sarà vicino a te. E so che vuoi fare dei saluti, credo. Sì, vorrei salutare la mia classe, in modo particolare le mie tre muse ispiratrici, Mara, Elena e Federica. Accidenti, tre muse, complimenti. Ciao Pierluigi, in bocca al lupo a tutti allora, ciao. Ciao. Mentre andiamo a Torino al volo da Lorenzo, ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. So che hai fatto un ripasso, vero, in vista di domani? Sì, sto ripassando più che altro storie, visto il tema storico che diciamo che è il mio punto forte. L'ho provato a fare due volte, ho preso due buoni voti, perciò okay. Speriamo di una traccia fattibile. È ripassato storia guardando il film Notte prima degli esami? Sì, prima l'ho visto Notte prima degli esami con i miei genitori, era da tempo che avevo programmato di vederlo. In teoria con i miei compagni, poi purtroppo non si è fatto niente. Comunque ho avuto una buona compagnia. Sì. E ora mi sto mettendo a ripassare la storia italiana. Soprattutto sui 150 anni. Sai, è questa immagine di questa famiglia italiana che si prepara all'esame guardando il film Notte prima degli esami è caratteristica. Ci piace. Ci stanno molto vicini. Va bene, ti accompagneranno domani, spero di no. No, vado per i fatti miei. Ok, ciao Lorenzo, in bocca al lupo per domani. Ciao, grazie. Mille, ciao, buona ciao. Serata, ciao. Chissà invece lui cosa ha fatto il giorno degli esami, questo, così. E adesso sarà stato Iena anche quel giorno? Non credo. Luca Bizzarri in questa notte. Ciao Luca. Buonanotte. Buonanotte, ti abbiamo svegliato? Perché ero in mezzo a un casino. Tra l'altro, anche tu, insomma, questa attività di regressione, di andare a rivivere il tuo passato, prima lo studente universitario, poi gli esami di maturità, col cinema l'hai fatto più volte, quindi è un esercizio a cui sei abituato. Sì, no, poi con l'esame di maturità ci abbiamo fatto proprio i soldi, nel senso che abbiamo fatto figato bene, che si chiama immaturi, certo. Anzi, stiamo per partire con il sequel. Che sarà il viaggio della maturità, naturalmente. Avete trovato il modo per divertirvi e farci i soldi, che credo che sia sì, farci i soldi noi no, però i produttori sì. Un ottimo compromesso. Luca, invece del tuo esame cosa ricordi? Ma niente. No, io ero in un periodo della mia vita un po' così molesto, per cui non sarò educativo. Io la notte prima degli esami ho giocato a poker fino alle 2:30. Ok. E insieme a compagni di studio? Insieme ad alcuni che il giorno dopo avrebbero fatto la maturità con me. Ho capito. Però poi andò bene, perché poi ho preso i 42, per cui andò bene. Però non ero molto serio come studente. No, ok. Ma perché eri uno di quelli, tra l'altro, che fanno anche rabbia, nel senso che eri abbastanza bravo, ma non studiavi? No, io ero proprio pessimo. Okay. Però riuscivo sempre, come dire, ad arrangiarmi in qualche modo. Ecco, io non dico altro. Okay. Vabbè, i tuoi orali avrei voluto vederli, però, all'esame di maturità. No, perché gli orali andavano bene perché portai inglese, che ne venivo da un'esperienza a Londra lunga, per cui insomma lo parlavo. Sì, mi inventai qualcosa, però io negli orali sì, poi qualcosa mi inventavo sempre, e negli scritti, come dire, approfittavo dell'indulgenza dei compagni, dei miei cari. Ok, Luca, grazie davvero. Ma quindi ti sei divertito comunque col film, al di là di tutto, nel senso, rivivere questo esame di maturità? Il mio vero esame di maturità è stato nel film, perché quando abbiamo girato la scena dell'esame di maturità nel film, sì, proprio per rendere la cosa molto più divertente, il regista non ci ha dato un copione, ci ha dato delle cose da studiare vere, mm-hmm, vere, sì. E poi noi avevamo una commissione davanti che ci faceva delle domande vere e noi dovevamo rispondere per quello che sapevamo. Mm-hmm. Com'è andata? È andata bene, però è stato molto divertente, perché comunque erano quattro cose, però sai, tanto uno non è più abituato né a studiare né all'idea di ritrovarsi di fronte a una commissione esaminatrice, per cui ci divertimo molto. Ci fu anche chi fece assolutamente scena muta, ma senza far nomi, Ambra Angiolini. Ecco, perfetto, benissimo, brava Ambra. E voi non l'avete aiutata, immagino, certo. No, assolutamente, sono un branco di stronzi proprio. Luca, grazie davvero per essere stato qua con noi in questa notte prima degli esami. Ciao, grazie a voi, buonanotte, in bocca al lupo ai ragazzi per domani. Grazie. La notte prima degli esami. Il gioco lo comandi tu. Sai mai quando ritorno? Forse sì, è quel mio essere un po' bastardo che se ci penso è quello che ti piace di me. Spogliati senza dolcezza. Anche Modà in questa notte prima degli esami. Ciao Checco. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te, come stai? Benissimo, grazie. Voi come state? Benissimo, guarda, una lunga maratona ma ricca di ricordi, emozioni, belle parole, insomma, ci siamo fatti abbracciare da questa maturità. Viaggiamo subito nel tempo, che ricordo hai tu del tuo esame? Ma guarda, io adesso dell'esame in particolare non ho un grandissimo ricordo, vero, tema, interrogazione, quelle cose là, no. Ho un ricordo particolare, sì, quello che sono riuscito a arrivare in ritardo anche quel giorno a scuola. Mi ricordo che il mio professore di matematica mi aspettava all'ingresso proprio dell'atrio, mi ha detto: Silvestre, ma anche oggi, cioè, ma anche il giorno dell'esame, sei incredibile. Io poi mi presentai addirittura già in versione spiaggia, mi ricordo il giorno dell'orale questo, perché poi avevo deciso di fare una lunghissima vacanza e mi presentai con un cappello di paglia l'infradito, proprio in stile Sanpei. Ah, proprio così? Sì, proprio così. Fa, ma almeno oggi un paio di scarpe mettite, insomma. Mm-hmm. Da un punto di vista del mio vestiario, soprattutto da un punto di vista dell'orario, devo dire che non andò molto bene, però poi alla fine riuscii a prendermi il diploma, l'esame andò bene, grazie al cielo, e riuscii, come si può dire, a fare contento soprattutto mio papà, perché poi alla fine io non ero un grande amante dello studio, devo dire la verità, però perché io già sapevo che volevo fare il musicista fondamentalmente, quindi della scuola, però mio papà, devo dire, ho avuto una famiglia che mi ha fatto capire quanto veramente fosse importante, e sono veramente contento innanzitutto di aver preso il diploma, e comunque mi è servito, perché poi io mi sono diplomato in informatica. Uh-huh. E quello per cui ho studiato poi mi è servito anche nella musica, perché comunque, come tu sai bene, anche nella musica si usa il computer e dei linguaggi di programmazione, certo, che poi servono per registrare eccetera eccetera. Quindi non è stata una fatica inutile, benché tu sia arrivato in ritardo, però insomma non è mai troppo tardi anche per l'esame. Questo può essere un messaggio. Meglio tardi che mai, esatto. Okay. Grazie davvero, Checco. Ciao, e anche per voi, come Modà, una lunga estate: 9 luglio a Bergamo, il 10 luglio a Cuneo, il 13 a Villafranca. Quindi buona estate, divertitevi. Grazie, anche. È un grandissimo in bocca al lupo a tutti quelli che domani, insomma, iniziano gli esami di maturità. Ricordatevi che saranno giorni che non vi dimenticherete mai, non come me, che me lo sono dimenticato. Ecco. Però il look non te lo sei dimenticato, quindi no, vedi, qualcosa è rimasto. Ciao, ciao Checco, grazie davvero. Ciao a tutti, ciao. E andiamo a salutarli tutti questi studenti con Verena dalla redazione di studenti.it. Verena, è stata una bella notte, eh? Sì, Federico, è stata bellissima, decisamente emozionante. E, vuoi salutarci con un ultimo messaggio, cioè un ultimo consiglio che come studenti.it volete dare ai ragazzi? Beh, i ragazzi in questo momento, come dire, stanno veramente nel panico, quindi stanno ancora scrivendo e dunque sono ancora stati. Il nostro consiglio a quest'ora è: provate almeno di andare a letto, di andare a nanna. Comunque uno degli ultimi commenti molto carini è stato quello di un padre, sì, che cercava informazioni per la figlia che invece era uscita. Quindi fantastico, ruoli ribaltati, il padre nel panico, la ragazza invece a divertirsi con gli amici a pensare altro. Ha delegato proprio il ripasso anche finale, grandioso. Esatto, quindi diciamo ora servono un po' di ore di sonno e in bocca al lupo per domani. Perfetto, ciao Verena, grazie, in bocca ciao al lupo a voi per tutto il vostro lavoro, non solo di domani ma anche dei prossimi giorni. Studenti.it su Facebook, ma tutti i vostri messaggi anche che stanno arrivando al 349-238-6666 sono bellissimi, e altri sul sito di Radio 24 che potrete leggere anche domani, nei prossimi giorni, e riascoltare anche l'intera puntata in podcast. E adesso è il momento della magia, lui è un mago e ci vuole anche un pizzico di magia, insomma, in questi esami di maturità. In nome d'arte Mago Forest, lui invece è Michele Foresta. Ciao Michele. Ciao Federico, come stai? Molto bene, tu? Bene, bene, bene. Mi fa piacere che si è sparsa la voce che io sono maturo, no? Ma guarda che è strano, no? Sei abbastanza colpito anche tu da questa voce diffusa, sì. Meno male, dai. Anche perché, dai, hai fatto un po' dell'immaturità un segno distintivo. Ho fatto, caspita, ho fondato una carriera, capito, sull'inefficienza, sulla impreparazione, non so dire neanche inadeguato, capito? Perfetto. Allora Michele, ti faccio viaggiare nel tempo, torniamo anche con te alla tua maturità. Te la ricordi ancora e ti ricordi ancora quella notte prima degli esami? Ho 28 anni, quindi esattamente 10 anni fa circa. Sì, è recente. Sarà passata una trentina d'anni, credo. 30 anni, mamma mia, che brutto. Anni fa, sì. Poi io addirittura ancora prima, perché io sono a scuola da 5 anni, perché si usava ai tempi iscrivere un povero bambino di 5 anni, così si sarebbe maturato prima e così avrebbe lavorato prima, quindi a 5 anni io già facevo la terza o la quarta, non mi ricordo. Ma poi a 18 anni tu già facevi il mago, no? Giravi già, mi ricordo in un'intervista che raccontavi che facevi già le tournée a 14-15 anni. Bene, bene, mi fa piacere che le mie gesta sono arrivate fino a Radio 24. Sì, no, a scuola così avevo conosciuto un altro pazzo come me, allora il mio amico che aveva uno spirito così imprenditoriale, ma anche lui 16-15 anni, organizzava piccoli spettacoli truffa negli oratori dei dintorni, in piccoli teatrini scalcinati così della Sicilia. È stato un bel inizio romantico, devo dire. E hai sfruttato queste tue abilità anche per la maturità? Ma diciamo che io ricordo bene la maturità, che mi ricordo proprio una domanda del cioè io ero proprio sul Foscolo, no? Sul sì. Foscolo, andava alla grande in quei tempi il Foscolo. E quando l'insegnante mi salutò, io un argomento a piacere, che era un grande classico per gli ignoranti, e io parto con il Foscolo, che sapevo a memoria, dicevo, il Foscolo al contrario dell'Alfieri, e allora l'insegnante fa, perché l'Alfieri com'era? Allora mi ha... veramente io volevo parlare del Foscolo, e mi ricordo sto... Mai girare alla larga, mai, dicendo mai. Di essere... Invece poi ho scoperto che l'Alfieri era molto più pessimista del Foscolo, quindi l'ho scoperto poi in tarda età. Ok, quindi, insomma, quindi viva il Fosco, viva l'Alfieri, viva l'Alfieri. E sei uno di quelli che poi è diventato adulto, ha sognato di nuovo come incubo l'esame di maturità, o è stato così un momento di passaggio leggero? In quei tempi volevo quasi essere bocciato, perché sentivo che sarebbe avvenuto questo distacco, cioè perché poi i veri amici, i veri anni della spensieratezza sono veramente quelli del militare, della scuola, quindi lasciare i miei compagni che mi hanno portato così per 5 anni, che è stato il mio primo pubblico, perché poi io facevo facendo il cretino a scuola, facendo le recite scolastiche, prendendo la parola nelle grandi riunioni, nell'aula magna, quindi sapevo che questo sarebbe finito, e allora forse speravo di essere bocciato. Forse sono stato bocciato, ma non me l'hanno mai detto per non darmi una grossa delusione. Ho capito. Grande Mago Forest, grazie davvero per averci portato la tua testimonianza. Ma no, fammi un'altra domanda, cioè dai, così, mi mandi via così. No, guarda, se vuoi, insomma, di cosa vuoi che parliamo? Lo sai che io sono parliamo aperto. Del Foscolo. L'Alfieri. Il Foscolo, al contrario dell'Alfieri, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie davvero, ciao Michele, ciao. Notte prima degli esami. E vabbè, ci eravamo ripromessi di non mettere Venditti, e invece chiudiamo con queste note che tutti conosciamo. Ringrazio anche tutta la squadra, Vanessa Guarnere e Giorgio De Luca, che con me hanno scritto la puntata, Roberto Scaltritti in regia, che si è divertito questa sera con i tasti, Rosa Longobardo al centralino. E poi, visto che insomma volevamo chiudere questo D-Day, lo facciamo con la conduttrice di G-Day, diamole benvenuto a Geppi Cucciari. Ciao Geppi. Buonanotte Federico, come dicono quelli seri. Buonanotte a te, come stai? Bene, tu come stai? Abbiamo fatto una lunga maratona che, insomma, domani mi è quasi venuta voglia di andare a fare l'esame anche a me, se devo essere sincero. E guarda che se non vuoi guardare in faccia i tuoi limiti, è meglio che tu non vada. Ti ringrazio. Geppi, tu che ricordo hai del tuo esame? Ma guarda, bello, sereno. Allora, ho due ricordi. Ti riferisci a quello delle medie o quello del liceo? Ma noi faremo l'esame di maturità, però poi stiamo facendo regressione, quindi va bene quello che vuoi. Allora, non ricordo la notte prima del diploma, ricordo la notte prima della licenza media, perché era contemporanea al diploma di mio fratello. Abbiamo sentito questa canzone tristissima che tu appena di cui hai fatto sentire l'incipit, quindi mi ricordo la notte prima. Poi invece ho un ricordo dell'esame di maturità, sereno, fresco e consapevole, e ho parlato della Petit Madeleine di Proust, della Recherche du temps perdu. Ascolta, sei riuscito a far ridere la commissione? No, fortunatamente no, ed è per questo che mi sono meritato un bel 58, di cui sono ancora molto fiera. Vai, perché 60 sarebbe stato troppo tondo, eh? No, c'era un'altra secchiona di me nell'altra sezione, non potevano premiarmi col 60. Ok, Geppi, grazie davvero per aver chiuso con noi questa puntata, e in bocca al lupo per la tua conclusione anche della stagione televisiva, che è stata fortunatissima, e insomma... Grazie Fede, un bacio, in bocca al lupo a tutti i giovani che domani diranno addio alla fase serena. scena e diventeranno dei giovani diplomati disoccupati. Perfetto, questo mi sembra un ottimo auspicio. Ciao Geppi, ciao, buonanotte. Bene, ciao. Grazie davvero, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, grazie ancora a tutta la squadra, grazie a Radio 24 che si è divertita a raccontare gli esami. Noi ci ritroviamo qui in onda nei prossimi giorni, radio24.it, per riascoltare la puntata e per raccontare la vostra maturità. Buonanotte e in bocca al lupo a tutti. Ciao!